Roma, che introduce un altro dei problemi della nostra discussione di questi giorni. Un problema che si inizia questa mattina, questa sera, per finire domani mattina. Federico Barbarossa è un sovrano che non agisce naturalmente da solo. Quali sono le forze che lo affiancano? Gli sono alleate. E quindi noi abbiamo questa sera la relazione del professor Bretti, gli alleati italiani, feudatari e città dell'imperatore Federico I. Domani mattina avremo l'altra relazione del dottor Rainer Hirtenrath, di Deutsche Mitarbeiter Friedrich Barbarossas. Vorrei, e poi dirò due parole per il professor Brezzi, vorrei sottolineare l'importanza di queste due relazioni. Dopo quanto si è detto nei giorni passati e fino a stamani, sul piano storiografico, come dei problemi relativi a Federico Barbarossa, noi tocchiamo un punto centrale. Per noi italiani, è vero o non è vero che c'erano tutti questi italiani d'accordo contro il Barbarossa? E quando erano d'accordo, perché? E d'altra parte, che tipo di alleati, collaboratori, fautori a Federico Barbarossa? Cioè arriviamo al punto centrale della discussione storiografica e critica sul personaggio, che per la parte italiana affronti il problema il professor Paolo Brezzi, dopo quanto io gli ho detto, potrebbe sembrare superflua una ulteriore presentazione. Il professor Brezzi da tempo, dai lavori della sua prima formazione di storico, ha affrontato questo problema del Barbarossa. Direi proprio da tutte e due le parti, anche se naturalmente la sua attenzione si è venuta polarizzando verso gli italiani. Vi ricordavo ieri il lavoro fondamentale su Ottone di Frisinga. Vi ricordo ora che egli ha proprio in una serie di lavori affrontato il problema di coloro che con Federico Barbarossa in Italia hanno collaborato o sono stati ostili. Naturalmente questi lavori sul Barbarossa non sono né stati né sono oggi isolati nel lavoro coreografico del professor Brezzi, di cui è, direi, addirittura ormai universalmente noto, un classico, il volume sulla storia di Roma dal 750 dalla metà dell'VIII secolo alla morte di Federico II, di cui sono non meno importanti gli altri lavori di storia anche culturale e religiosa, sia per l'età del Barbarossa, sia per il cristianesimo antico, sia per la storia del cristianesimo medievale. Questo senza, ma è appena un accenno, senza potermi trattenere su quelli che sono stati gli impegni e i problemi di natura metodologica della produzione storiografica del professor Brezzi. Quindi è con particolare piacere che noi lo ringraziamo di aver accettato l'invito dell'Istituto a tenere questa relazione che, bisogna dirvi subito, ha una sua inevitabile complessità, proprio perché gli italiani, amici e non, intorno a Federico Barbarossa sono numerosi E aggiungiamo, se mi permettete, una parola italiana scherzosa che non saprei tradurre in tedesco, sono anche dei collaboratori piuttosto agitati, piuttosto unruhig, e quindi uomini e città estremamente in mutamento, in trasformazione, in movimento. Per questo, come abbiamo fatto con il professor Capitani, la relazione verrà, per così dire, divisa in due parti con un breve intervallo. La prima parte sarà seguita dal solito riassunto orientativo e così anche la seconda parte. Non mi trattengo oltre, ringrazio ancora il professor Brezzi e gli do senz'altro la parola. Grazie. Superate le vecchie e inesatte interpretazioni di tipo nazionalistico e patriottico che presentavano Federico Barbarossa quale lo straniero oppressore e i comuni cittadini italiani come portatori e difensori di libertà, rimane il fatto incontestabile di una lunga e dura lotta tra le due parti, di una vicenda pluridecennale e complessa, ricca di alterne vicende e di situazioni talora drammatiche. Il fenomeno deve essere storicamente studiato e capito, rivissuto dall'interno e illustrato nei suoi dettagli. Il carattere e il significato di tale contrasto vanno sottoposti ad un vaglio attento e puntuale, mediante un riesame delle testimonianze a nostra disposizione, sia le fonti letterarie sia i documenti pubblici e privati, senza preconcetti o preferenze, bensì con la ricchezza dell'esperienza che viene da tutti gli apporti di una metodologia storiografica agguerrita e sensibile, che sia attenta non solo e non tanto ai gesti clamorosi, agli episodi più famosi, al comportamento dei grandi, tra virgolette, ma che scenda nel vivo della realtà sociopolitica di quel tempo, analizzi il comportamento della grande maggioranza delle popolazioni, silenziose ma attive, e quindi colga il gioco degli interessi economici e patrimoniali, valuti caso per caso e luogo per luogo i motivi di determinate scelte e di passaggi di campo che a primo aspetto ci possono apparire strani, incoerenti, magari fedifredi. Lo stesso criterio vale per quanti, a diverso titolo e con differente gradualità di impegno, militavano nel campo imperiale. Anche nel loro caso, il compito dello storico consiste nell'individuare la posizione strategica delle località che erano le più ambite dagli uni come dagli altri contendenti, misurarne le rendite in prodotti della terra e in entrate finanziarie, risalire agli intrecci di famiglie ivi residenti ed agenti, senza trascurare l'individuazione di quelle forze esterne che potevano anche avere influenza in loco ed agivano più o meno scopertamente sul comportamento degli esponenti minori. Ma dopo avere compiuta una siffatta analisi circostanziata, una serie di problemi si impone ancora e fa assurgere la ricerca ad un livello più dottrinale, adeguandola anche ai più attuali interessi e orientamenti storiografici. Si tratta cioè di rievocare non tanto l'azione politica del Barbarossa e dei suoi amici od antagonisti, quanto di fissare la nozione del potere sovrano, così come era allora concepita. di individuare i fondamenti sui quali si basava, le forme concrete che assumeva. In tale prospettiva, i moventi delle alleanze e delle divergenze rimangono molto meglio evidenziati, pur con tutte le riserve indispensabili che vanno avanzate in merito al distacco ogni ora esistente tra la teoria e la pratica, tra le norme e i comportamenti. Dalle dichiarazioni di principio esposte in momenti decisivi, dalle formule dei diplomi e degli altri atti della Cancelleria Imperiale, dalla destinazione specifica a cui erano rivolti questi atti, verranno fuori di volta in volta le caratteristiche, i limiti, gli strumenti di quella autorità, nella sua duplice e non del tutto coincidente natura di imperiale e regia. Mentre, viceversa, si riuscirà a capire anche i motivi del rifiuto opposto dall'altra pars, la concezione che quest'ultima, cioè i nemici di Barbarossa, avevano della loro qualità di societas, limitata ma funzionale nei confronti di altre forze ed entità politiche vicine e lontane. Recenti ed acuti contributi di storici e di giuristi italiani e tedeschi hanno segnato una ripresa di tutta questa tematica con una sensibilità nuova, ottiche diverse, impostazioni originali e feconde, che non hanno la pretesa di generalizzare troppo, come forse un tempo si faceva, ma si prefiggono di arrivare a cogliere le caratteristiche comuni di una realtà che non era unitaria, ma che, mediante pazienti indagini capillari, rivela in tutta la sua pregnanza l'autenticità di un organismo foriero di grandi sviluppi politici successivi. E mi sia consentito rivolgere uno speciale plauso agli storiografi tedeschi recenti che, nella scia dei grandi maestri ottocenteschi e del primo trentennio del nostro secolo di cui abbiamo sentito parlare, si sono dimostrati perfetti conoscitori della storia comunale italiana, padroneggiando le fonti locali e gli studi editi nei nostri vari bollettini e archivi storici regionali e cittadini, compiendo analisi attente e minuziose, impegnandosi anche appassionatamente in vivaci dibattiti e dando ogni ora prova di obiettività e di acume con grande profitto della cultura. Non è di certo necessario che qui si ricordi quale fosse la situazione dell'impero in Italia al momento dell'avvento al trono del Barbarossa. Ma è indubbio che la scarsa incidenza di quel potere durante tutta la prima metà del secolo XII e per gli ultimi decenni la lunga assenza dei titolari dalla penisola, tutti sanno che Corrado III non scese mai a prendere la corona, fecero sì che venissero a mancare i segni di autorità da parte dei sovrani sui loro dipendenti. Proprio quando, viceversa, erano in rapida evoluzione economica, sociale, politica, nuovi organismi, cioè i comuni, che comunque si giudichi la loro formazione, la composizione sociale, rompevano schemi precostituiti ed esprimevano nuove esigenze. Già uscito assai scosso dal lungo duello sostenuto con i papi riformatori, menomato nel prestigio da diversi altri elementi che erano ormai presenti nell'Europa di quei decenni, nascenti stati nazionali, l'impero si trovava indubbiamente in condizioni sfavorevoli. Aveva a che fare con un complesso di fattori negativi alla metà del secolo. Questo non significa che la sua funzione fosse già finita, ma solamente che la situazione era differente da quella del passato e presentava nuove problematiche. Per quello che concerne il nostro tema, vi erano tuttavia in Italia ancora degli alleati validi per un imperatore che si fosse presentato nel nostro paese agendo come si addiceva ad un signore tanto illustre e qualificato. In più, quasi paradossalmente, si può aggiungere che, accanto a coloro che per la loro collocazione sociale erano quasi naturalmente i sostenitori del sovrano, vi erano in Italia anche molti altri che attendevano l'occasione propizia per appoggiarsi a lui e cercare in lui una difesa contro la prevalenza di alcuni comuni tendenti in una maniera ormai evidente ad affermarsi pesantemente sui loro vicini e a allargare la propria sfera di influenza. Si aggiungono ancora le ben note divisioni interne esistenti in ogni città, le discordie di parte, i contrasti di interesse tra i gruppi. Insomma, è la storia stessa dell'evoluzione comunale che porta, quasi in coincidenza con l'inizio del regno di Federico I e con le sue iniziative oltre Alpi, ad un rimescolamento delle carte, per così dire, ossia che offriva al titolare della corona le occasioni per inserirsi in un gioco abbastanza complicato e a largo raggio, destinato a protrarsi per decenni con vicende interne ed episodi emozionanti. Tuttavia, un'analisi dettagliata di questa storia è impossibile qui per evidenti motivi di tempo e anche, aggiungo subito, di preparazione. Quindi mi sia consentito di limitarmi cronologicamente al periodo 1154-1177 e spazialmente di prendere in esame quasi soltanto il Piemonte e la Lombardia, con qualche cenno ad altre regioni che non sarebbero meno interessanti da studiare, ma che si trovavano in condizioni di partenza un po' differenti. Sul termine ad quem, il 77, mi sembra evidente, dato che dopo la pace di Venezia e quella poi conseguente di Costanza, le condizioni mutarono radicalmente. Ci furono ancora alleati e avversari, eccetera, ma insomma i problemi che si posero furono del tutto diversi rispetto a quelle del ventennio abbondante precedente che qui consideriamo. Nel nostro viaggio ideale attraverso la penisola ci troviamo subito di fronte, partendo dal nord-ovest, al personaggio più autorevole e qualificato di tutta la schiera degli amici dell'imperatore, il marchese Guglielmo V il Vecchio di Monferrato, di cui il tanto citato cronista Ottone di Frisinga in questi giorni dice esplicitamente: vir nobilis et magnus qui pene solus ex Italie varonibus civitatum effugere potuit imperium. Guglielmo era marito di una Giulitta, sorella appunto di Ottone di Frisinga e quindi, come Ottone, zia di Federico Barbarossa. Ma non sono di certo questi motivi familiari che hanno messo Guglielmo in stretto contatto con la corte sveva, bensì più concreti e immediati interessi patrimoniali e territoriali, data la distribuzione dei suoi beni in quell'area chiamata appunto Monferrato, che per chi non è come me di quelle parti, dirò, è posta all'incrocio delle grandi vie di comunicazione tra il mare Ligure e la pianura padana, diciamo in senso verticale, e tra la pianura padana e il mondo transalpino in senso orizzontale. Le diverse città ivi esistenti trovavano nel loro slancio espansivo un ostacolo assai duro in lui, che a sua volta, convinto come era di dover tenere loro testa, vide nell'avvento del Barbarossa un aiuto quasi insperato per dare una lezione a quelli che gli considerava ribelli. Fin dalla prima discesa del Barbarossa nel 1154 si ebbero significativi gesti bellici in superiores Italiae partes, cioè in quello che noi oggi chiamiamo Piemonte. Dalla prima dieta di Roncaglia Federico aveva inviato solenni intimidazioni, come egli dice in quella lettera di cui avevamo parlato stamattina, sia agli oppidani caire, che sono i chieresi, sia agli astenses cives, notate la differenza, oppidani e cives, aveva inviato intimidazioni ai chieresi e agli astigiani di dare soddisfazione alle giuste esigenze del marchese di Monferrato. E il vescovo Anselmo di Asti aveva unito le sue proteste a quelle di Guglielmo. Poiché né i chieresi né gli astigiani cedettero agli ordini imperiali, vennero dichiarati ribelli e messi al bando, ai primi del 55 il Barbarossa, dopo essere stato ospite del vescovo Carlo di Torino, di cui tra poco parlerò, passò il ponte del Po a Testona e si diresse verso Chieri, perché in quel territorio sia il vescovo torinese, sia il conte di Biandrate, di cui adesso parlerò, e forse anche il marchese di Monferrato, avevano beni e vassalli. Gli abitanti abbandonarono quella che è nel testo citato è indicata come maximam et munitissimam villam, rifugiandosi sulle colline circostanti, cosicché l'esercito tedesco poté dare fuoco alle torri e al castello e poi allontanarsi verso la valle del Tanaro. Qui, su quella direzione, vi era Asti, ormai comune fiorente, in piena avanzata di acquisti territoriali, ma proprio per questo in continui urti con i signori laici ed ecclesiastici della zona. All'arrivo dell'esercito tedesco imperiale, gli abitanti si rifugiarono nel castello di Annone, quindi Federico poté occupare senza difficoltà la città e consegnarla il 1 febbraio 55 al marchese Guglielmo, a dimostrazione, e qui cito l'amico Manselli, un suo studio appunto su questi argomenti, a dimostrazione della sua dura volontà di imporre le sue direttive politiche in Italia. In quella citata lettera di Federico a Ottone si dice «Ceram destruximus et civitatem astam incendio vastavimus». A sua volta il cronista, allargando, come abbiamo detto stamattina, vero? Igni eam et direzioni dedit. E poi Ottone di Morena, altro cronista più moderno, avrebbe un discorso molto più lungo che forse per brevità vi tralascio senz'altro. Pochi anni più tardi, dopo la seconda dieta di Roncaglia, la questione di Asti ritornò ad impegnare l'imperatore. Ma volgiamoci prima all'altro feudatario piemontese già incidentalmente nominato Guido di Biandrate, la cui posizione è quasi radicalmente differente da quella di Guglielmo, così si vede anche appunto questa diversità pur nella, diciamo, catalogazione di amici, di alleati dell'imperatore. E forse proprio per questo è ancora più interessante e significativa, perché il gioco delle parti qui è più complicato e le mosse più studiate. La base patrimoniale dei conti di Biandrate era posta tra la Sesia e il Ticino, nella Val d'Ossola, e forse anche nel vecchio comitato di Pompia. Con parole moderne, per coloro che insomma non hanno, diciamo, questa diretta pratica di queste località, dirò il territorio novarese, fatta però eccezione per la città, la quale, sempre al dire del benemerito Ottone, era Novara, non Magna. Quindi, tutte queste differenze, Fiere è una cosa, Asti è una grande città, questa è una piccola città, però Novara era stata riedificata dopo che Enrico V l'aveva distrutta. Era stata munita muro novo et vallo non modico. Guido di Biandrate, per avere un appoggio valido contro Novara, si era fatto cittadino milanese e quindi possedeva ormai quel territorio Mediolanensium auctoritate, una strana posizione davvero. E fonte di complicazioni, dato che i milanesi poi non facevano complimenti tra Novara e Biandrate e li tenevano a bada entrambi e si intromettevano nelle controversie locali. Anche per il Biandrate, quindi, questo era negli anni precedenti, all'arrivo di Federico, l'arrivo dell'imperatore poté costituire un prezioso diversivo. Anzi, di lui possiamo ricordare che fin dal 52, l'anno dell'elezione, nella prima dieta di Würzburg, aveva già ottenuto, andando là, in quella città, un diploma da Federico di conferma di tutti i suoi beni. E nel Natale del 54 lo stesso sovrano aveva ceduto quasi tutti gli stessi possessi però al vescovo milanese. E questo giochetto poi lo ritroveremo più volte. L'ambigua politica di Guido, come l'ha definita il Cognasso, o la politica pendolare, per dirla col Manselli, proseguì negli anni successivi. Era amico, anzi cittadino di Milano, ma rimaneva in ottimi rapporti con il Barbarossa, che accentuava ogni giorno di più la sua aperta avversione al comune lombardo. Il 1 febbraio 1956 Guido di Biandrate ricevette un altro generoso diploma di conferma dei suoi possessi e privilegi e fu dichiarato dipendente esclusivamente dall'autorità imperiale. I suoi sudditi ebbero la facoltà di commerciare liberamente in Piemonte. Ma nell'anno successivo, giugno 1957, il solito Guido lo troviamo invece a capo dell'esercito milanese, che si muoveva contro il castello di Vigevano, che era un avamposto di Pavia, e Pavia, quello che abbiamo detto stamattina, era imperiale. Dentro quale castello di Vigevano era chiuso tra gli altri il marchese Guglielmo di Monferrato, che poi tra l'altro era anche cognato di Andrate, ma insomma magari i legami familiari contano poco. Ma quindi, come vedete, l'intreccio è complicatissimo. Questo non impedì poi a entrambi, in occasione della seconda discesa del Barbarossa, di recarsi addirittura in Germania a attenderlo e accompagnarlo poi giù. Due parole su quel vescovo di Torino, Carlo, che ho menzionato. Poiché questi era fieramente avverso alle aspirazioni dei Savoia sulla sua città, e era contrario all'autonomia comunale, trovò subito nell'imperatore una protezione. Tuttavia, per un certo tempo venne messo sotto nella, diciamo, gerarchia al conte di Biandrate, di cui abbiamo tanto parlato, tanto che nell'agosto del 58, alla presenza di Federico, questo lo ricordo, dovette cedere in feudo alcune terre al Biandrate stesso. il Barbarossa approvò l'atto e in più diede a Guido vari altri titoli. Ben presto però la situazione si cambia e il Carlo, come adesso poi dirò, diventò il beniamino, per così dire, di Federico e fu favorito da moltissimi privilegi. Ma restando in Piemonte vi è un altro fattore determinante da mettere in conto per spiegare la politica imperiale in quella regione, le esigenze effettive che la determinavano, gli interessi da difendere, i tributi da riscuotere, i beni da salvaguardare e via di seguito. E cioè il solido blocco di possessi fondiari che era la piattaforma più sicura del potere regio in quelle terre. Era, se così posso dire, il trampolino per ulteriori rivendicazioni di diritti ed entrate, era la fonte principale, con queste sue rendite, per alimentare le spese di guerra. Già da tempo erano 28 le corti regie nella zona pedemontana, e se ormai alcune alla metà del XII secolo erano divenute piccoli centri comunali, vi si erano mantenuti gli obblighi verso l'imperatore e i servizi alla cassa del sovrano. Citerò località come Settimo, Avigliana, Piossasco, Marengo, Montiglio, Sezzelo, Pecetto, eccetera. Altri centri poi erano situati in Liguria, che per noi sono così, diciamo, due regioni diverse, ma che complessivamente vanno viste in quel momento in maniera globale. Si trattava di un'estensione di migliaia di chilometri quadrati, dati in locazione a diverso titolo e consistenti in boschi, pascoli, coltivazioni agrarie di vario genere. Questo reddito variava da corte a corte. E sempre per fare così un elenco, un inventario delle forze in filo imperiali in Piemonte, non dobbiamo dimenticare i palazzi regi esistenti sia in Torino sia in altre località minore, e tutto ciò poi a prescindere dai soliti diritti, introiti, prerogative, multe, di cui ogni imperatore fruiva sempre e ovunque e sulle quali, come è ben noto, proprio Federico imposterà tutta la sua azione nella seconda dieta di Roncaglia del novembre del 58, sulla quale poi ritorneremo. Data per scontata questa storia, dopo Roncaglia venne il momento del trionfo e fu il Piemonte la sede più adatta a giudizio del Barbarossa, per offrire lo spettacolo della sua rinnovata potenza. Mentre Guido di Biandrate, cioè questa volta tutto in quel momento tutto dalla parte dell'imperatore, girava per le città portando le disposizioni necessarie per realizzare il nuovo ordine di cose delineatosi appunto a Roncaglia, Federico celebrò il Natale del 58, quindi finita la dieta del novembre, ad Alba. Poi passò a Torino ai primi dell'anno nuovo, accolto con Imnis et Canticis Spiritualibus nella chiesa dei Santi Martiri Protettori. Ivi elargì molti diplomi ad abbazie della regione e soprattutto, ecco quanto avevo accennato prima, concedette al vescovo Carlo, qualche giorno dopo dal castello di Ocimiano, un diploma eccezionalmente generoso. In dettaglio il presule ebbe confermate anzitutto tutte le precedenti concessioni imperiali, come sempre avveniva, ma in più ottenne il muro della sua città, il fisco, il teloneo e ogni diritto entro un raggio di 10 miglia. Seguivano le donazioni di molte corti in tutto il territorio dei comitati di Torino ed Auriate e il divieto a qualsiasi duca, marchese, conte di inquietare quel fortunato vescovo, che così, senza averne il titolo e in certo senso in ritardo rispetto alla solita evoluzione, diventava il vero signore di Torino, a scapito quindi sia dei cittadini ma soprattutto dei conti di Savoia. Anche Guglielmo del Monferrato in quella circostanza si diede da fare, però la sua sorte fu in quel momento meno felice. Infatti si limitò a fare da tramite tra Federico e il comune di Asti, mediando i loro interessi senza alcun preciso vantaggio per sé. Il 15 febbraio del 59, da Marengo, venne emanato da Federico un diploma che costituisce il più antico riconoscimento ufficiale del comune di Asti, stabilendo che la città stesse sotto la speciale giurisdizione dell'imperatore per il suo onore e servizio, e che a tal fine fosse retta da tre cittadini da lui designati col titolo di potestà, i quali dovevano avere la cura, la difesa, il reggimento della città in merito ai diritti regali, inoltre fruivano del distretto su tutte le terre dipendenti da Asti, riservavano a sé il fodro e fissavano in più un tributo annuo di 150 marchi d'argento. Anche il castello di Annone, grande presidio tradizionale delle libertà comunali astigiane, qui devo accennare a cose di cui non posso parlare, ma insomma per chi conosce quella storia sa quanta importanza aveva avuto Annone nella storia della nascita e dello sviluppo del comune di Asti, anche il castello passava sotto il controllo di quei tre magistrati regi. Ci è stato pure conservato il lungo giuramento di fedeltà che i rappresentanti locali prestarono in quel momento a Federico. Dovevano aiutarlo a conservare l'impero, non usurpargli alcun diritto, coadiuvare a farglieli recuperare quelli perduti, non prendere parte ad azioni contro di lui, ubbidire ai suoi ordini, combattere ogni qualvolta lo chiedesse, eccetera, eccetera. Questo diploma è stato dal Cognasso, da tutti quegli studiosi piemontesi, considerato appunto come l'espressione più chiara, più esplicita, anche se volete più pesante, insomma, del modello di governo che Federico vagheggiava nei rapporti con le città e che in certo senso appunto faceva delle città degli alleati dell'imperatore. Noi sempre un po' questo andiamo cercando, chi fosse alleato a secondo a vario titolo e in secondo diverse impostazioni. Nel giro degli anni successivi, invece, il Piemonte si defila dall'orizzonte dell'imperatore. Maiora Premunt, non starò a entrare in dettagli, ma ricorderò le ripetute ingiunzioni contro Milano, il famoso assedio, la distruzione feroce della città, le pesantissime condizioni imposte ai sopravvissuti, le angherie contro gli abitanti dispersi, eccetera, eccetera. Basterà aggiungere che in quel periodo Federico appare ogni ora circondato dai suoi grandi alleati feudatari italiani, Marchese di Monferrato, il Conte di Viandrate e poi altri che adesso non ho ancora ricordato, i Marchesi del Vasto di Savona, il Conte Guido Guerra e via di seguito. Anche qualche comune, però, come ben sappiamo, mandò delle milizie al comando dei podestà imperiali. Nell'estate del 1162, cioè dopo la distruzione di Milano, il Barbarossa passò ancora per Torino, puntando verso la Francia, oltre altri, Borgogna, eccetera. Ma le fastose cerimonie che egli aveva predisposto colà non poterono attuarsi per molteplici e non felici ragioni. Inoltre, il conte di Savoia Umberto III continuava a mostrarsi decisamente ostile al sovrano. Poi c'erano anche le opposizioni del clero e dei monaci piemontesi all'antipapa imperiale, ormai è scoppiato lo scisma, sappiamo, le stesse disposizioni che Federico prendeva, questo l'accenno che avevo fatto poc'anzi, risultavano contraddittorie, Ad esempio, in alcuni diplomi dati a Guglielmo del Monferrato gli vengono riconosciute terre che egli precedentemente, in quel diploma che avevo menzionato, aveva dato invece al vescovo Carlo di Torino. Di qui alterchi e polemiche seguiti anche da alcuni gesti di forza, quindi insomma contrasti all'interno di tutti degli stessi, di quelli che noi chiamiamo così alleati di Federico. Inoltre i feudatari erano tutt'altro che soddisfatti del fatto che l'imperatore creasse per alcuni baroni tedeschi ampie proprietà ricavate dalle loro terre, oppure che facesse donazioni all'imperatrice o altri suoi parenti, donazioni fatte a spese dei possessi già appartenenti agli alleati italiani del sovrano. Qui poi il discorso si allargherebbe appunto a tutto il sistema dell'amministrazione imperiale e al malgoverno dei suoi funzionari, ma direi che lo possiamo tralasciare. Spostandoci in Lombardia, due sono i centri di cui possiamo occuparci almeno a grandi linee. Pavia, la capitale del regno, ognora fedele all'autorità legittima, e un gruppo di famiglie milanesi, sulle quali recenti e molto pertinenti indagini hanno gettato una nuova luce. Pavia non poteva offrire a Federico uomini e proventi come i baroni e i possessi pedemontani. Tuttavia essa fu apertamente e continuatamente ghibellina, come dimostrano i suoi interventi contro Tortona fin dai primi anni di regno del Barbarossa e la gioia che Pavia dimostrò dopo la distruzione della odiata rivale. Il solito e preciso Ottone di Brisinga ci dice appunto che i pavesi si lamentavano più di Tortona che di Milano. Eo quod civitas insinum mediolanensium posita, robur tamen comitatus sui ultra Ticinum abet, cioè proprio una localizzazione che per lei e per Pavia era più dannosa la presenza, la posizione geografica di Tortona che non quella di Milano. Fu in Pavia che l'imperatore il 17 aprile del 55 venne incoronato tra l'esultanza popolare, almeno così si dice, dicono le fonti. Egli vi ritornerà nel 59 e poi all'inizio del 60 terrà in Pavia il concilio che doveva far riconoscere il suo antipapa Vittore IV, e sarà sempre da Pavia che nel marzo 62 ordinò ai milanesi di abbandonare entro 8 giorni la loro città, mentre, e questo dobbiamo dire un po' purtroppo vero, saranno soldati pavesi, lodigiani, comaschi e cremonesi che aiuteranno a radere al suolo in pochi giorni la vinta rivale. Sempre del 62, il giorno di Pasqua, che cadeva il 9 aprile, Federico tenne in curia episcopi papiensis, ubi papienses faciunt concionem, tenne un solenne banchetto circondato da vescovi e signori di tutta la zona padana per festeggiare questo ambito trionfo sulla grande avversaria Milano. E ancora in seguito egli emanerà da Pavia alcuni importanti atti di cui subito dirò. Ma in quella stessa città di Pavia, che pur si reggeva a comune, risiedevano ancor sempre i conti palatini e vi esercitavano la loro autorità nelle forme tradizionali, cioè davano sentenza, emanavano delibere e riscotevano le tasse sul mercato. Titolari della carica, e quindi potenziali alleati di Federico, sempre lo stesso discorso, erano i conti di Lomello, e durante l'assedio di Milano, due di loro, Guido e Guifredo, combatterono a fianco fianco del sovrano, salvandogli anche proprio la vita, almeno così si racconta, perché il cavallo era, si era impennato, Federico stava per cadere e quello lo ha preso così, l'ha strappato proprio lo sollevò dall'arcione, l'ha strappato agli inseguitori milanesi che già stavano per raggiungere. Pochi anni dopo, mentre sempre in Pavia, il 16 luglio del 64, l'imperatrice Beatrice dava alla luce un figlio, Federico, l'imperatore emanò due diplomi con i quali si dava una onorevole sistemazione alle due parti che, se posso usare così un termine, dialetticamente convivevano in città, e cioè, come dicevo, i conti di Lomelli, i suoi conti palatini e il comune. Col primo diploma egli prendeva i conti di Lomello sotto la sua protezione, esentandoli da qualsiasi giurisdizione che non fosse la propria e quindi anche da quella comunale, alla quale invece noi sappiamo per altra via che nei decenni in cui l'impero era assente dall'Italia, quello che avevo accennato, s'erano dovuti sottomettere, e riconoscendo anche a questi conti vari poteri su parecchie corti e terre feudali, ma escludendoli totalmente dal potere in città. Viceversa, l'8 agosto del 64 emanava il documento a favore del comune pavese in segno di altissima benevolenza, e si diceva in esso che, fatto salvo il giuramento di fedeltà all'impero, venivano riconosciuti alla città i diritti di libera elezioni dei consoli, che però poi avrebbero ricevuto dal sovrano o da un suo messo l'investitura e la conferma. In più venivano sanzionati gli usus e le consuetudini locali, si consentiva la giurisdizione alta e bassa, non si faceva cenno del fodro e si escludeva l'appello per le cause decise dai pavesi, tutte cose che invece appunto altrove compaiono. Infine era dato a Pavia il dominio sul distretto circostante, estendendolo alla Lomellina, all'Oltrepò e alle zone del territorio tortonese di cui si era detto, nonché a quello milanese, dato appunto la situazione in cui due anni dopo la distruzione Milano si trovava. Si tratta, per così dire, di una Magna Carta che rientrava sempre nei limiti che il Barbarossa aveva fissato all'autonomia comunale e rispondeva alle sue vedute di governo, ma che tuttavia consentiva ai cittadini una libertà di manovra che altrove non si verificava e di cui varie città soltanto dopo la pace di Costanza avrebbero potuto fruire. Un breve cenno per dire che Cremona si trovava in una situazione del tutto affine a quella di Pavia, escluso naturalmente quella di essere la capitale del regno, e quindi con una posizione di esplicita e duratura opposizione a Milano, quindi alleanza con Federico, e di qui una pioggia di privilegi, come è stato scritto, che fu largita da Federico tra il 57 e il 76 ai cremonesi, con la promessa da parte imperiale di non fare mai pace separata con chiunque fosse stato nemico di quella città, e con l'impegno di inviare una guarnigione di 1000 uomini se i cremonesi l'avessero richiesto di fronte a qualche pericolo che si affacciava. Altre cose interessanti si potrebbero aggiungere a proposito della posizione assunta dai numerosi monasteri situati nell'area pavese in occasione dello scisma interregnum e sacerdozium che, come ho detto, aveva in Pavia il suo epicentro, perché appunto lì era stato ufficialmente riconosciuto Vittore IV. D'altra parte, quei grandi istituti monastici con le loro proprietà terriere e le loro risorse erano una pedina preziosa per l'imperatore sempre bisognoso di denaro, né egli poteva disinteressarsi di avere alleate nella delicata situazione in cui si trovava quelle forze. L'argomento andrebbe molto esteso e sviluppato, ci sono alcune ricerche in proposito, qui ho desiderato così accennare, tanto per dire, la varietà di questi alleati, per dire, di Federico, vero, che va dei grandi signori, alcune città e alcuni enti ecclesiastici. Ed è appunto a proposito ancora di enti ecclesiastici che, senza affrontare, come è evidente, la questione generale della posizione assunta dai cistercensi durante tutta la questione dello scisma, dirò soltanto che gli importanti monasteri cistercensi della Lombardia, Chiaravalle, Morimondo, Chiaravalle della Colomba, eccetera, seppero sempre abilmente mantenersi neutrali tra i due contendenti, riuscendo anche a svolgere qualche benefica azione mediatrice. Ricevettero diplomi sia dall'imperatore sia dal pontefice romano, ebbero privilegi e protezione, sentirono però anche il peso di interventi dei comuni che erano ansiosi di sfruttare quei possessi terrieri e di controllare alcune posizioni topograficamente strategiche che erano occupate da quelle costruzioni monastiche. Il prudente equilibrio di cui seppero dar prova quei monaci non li esentò del tutto dal subire danni durante le guerre e le rappresaglie, ma in complesso quelle sedi monastiche rappresentarono un punto di sicurezza, non direi proprio un'esplicita alleanza, ma un punto per Federico nei momenti più duri del suo lungo duello con gli italiani. Concentriamoci su Milano. Fin dalla sua prima venuta in Italia, l'imperatore era stato subissato di richieste affinché intervenisse contro la prepotenza milanese e contro l'eccessiva espansione dell'influenza politica di quella città. Era un coro di lagnanze, una generale petizione di aiuto. È facile intendere come costoro fossero tutti dei potenziali alleati di Federico. Si trattasse di città come Lodi, Como e via di seguito, o di famiglie. Fossero questi appelli provenienti da zone poste ai bordi delle mire espansionistiche ambrosiane, come il contado rurale di Seprio, e o da istituti dotati di beni come il celebre monastero di Sant'Ambrogio che stava alla periferia della città. Poiché si tratta di una storia svoltasi tra il 54 e il 62, assai travagliata, densa di fatti e di colpi di scena, ma anche molto nota e più volte narrata, non starò certo qui a ricordarla. Ma ai miei fini, invece, è assai più importante cogliere un altro aspetto della vicenda, e cioè il dato inconfutabile che in Milano vi fu ogni ora un gruppo di abitanti, diciamo una fazione, se volete modernamente un partito, che pur avendo il medesimo obiettivo degli altri cittadini, cioè l'aumento della potenza comunale, l'estensione della supremazia milanese sulla regione, ritenevano costoro più consona a tal fine la ricerca di un'intesa col sovrano, l'attuazione di un modus vivendi tra le aspirazioni e le necessità dell'imperatore e le proprie, senza provocare rotture insanabili perché sarebbero state controproducente rispetto allo scopo principale, che era comune anche a quelli dall'altra parte. Sono questi, a mio avviso, i caratteri del filo imperialismo di non pochi milanesi. Ed è per questo che costoro rientrano a pieno titolo, anche se da una diversa angolazione, in questo mio quadro degli alleati di Federico. Evidentemente ciò nulla toglie all'eroismo degli altri, dei resistenti, però noi con questo compiamo lo sforzo di comprendere la posizione di quanti si opponevano loro e che di certo a noi appaiono molto meno esaltanti dei primi, e che tuttavia avevano anch'essi una loro sensata e logica linea politica e di comportamento. A differenza di quella sopra evocata, quest'altra, cioè dei rapporti dell'imperatore con alcune forze sociali e politiche della Lombardia, ossia dei sostenitori milanesi di Federico I, per riprendere formule della Livia Fasola, che ieri era qui con noi, mi dispiace che non ci sia, a differenza di quell'altra parte, solo di recente, cioè proprio anche dalla Fasola ed altri, è stata indagata sine ire, ira, insieme questa storia, insieme a quella di tanti altri nuclei familiari di varia estrazione e localizzazione, di non identico orientamento politico e tuttavia contribuenti ciascuno in vario modo a farci conoscere l'effettiva composizione patrimoniale di classe dell'ambiente milanese negli anni decisivi della seconda metà del secolo XII. Citerò le famiglie degli Scaccabarozzi, dei Dabaggio, degli Ermenulfi, dei Cagapisto e via di seguito, fatte oggetto, questa è la storia di queste famiglie, di attente indagini da parte di giovani studiosi di milanesi. Non si possono raccogliere tutti costoro sotto un unico denominatore, come non si possono subito classificare con una sola etichetta sociale, diciamo, aristocratici o no, eccetera. La Fasola indugia a lungo su questo punto, avendo felici espressioni per evidenziare le sfumature, i diversi livelli di comportamento, così come le motivazioni che stavano a monte delle scelte, i passaggi di campo, le realistiche spinte, cioè possessi, patrimoni, giro d'affari, che determinavano certe decisioni politiche. Qui non farò che riportare liberamente alcune sue conclusioni. Se tra gli anni 50 e 70 del secolo XII la maggioranza del ceto dirigente milanese era prevalentemente orientata verso una politica antiimperiale, come è a tutti noto e come appunto ho così ricordato a gloria di quelli che hanno tenuto quell'atteggiamento, tuttavia l'esistenza di uno schieramento politico opposto ci premonisce contro un'immagine troppo schematica di una città monoliticamente ostile a Federico, e apre uno spiraglio non trascurabile sulla dinamica sociale e politica locale di quegli anni. Analizzando questo schieramento filo imperiale, sia nella sua composizione sia nelle sue caratteristiche, risulta che si trattò di una minoranza che poi non era neppure omogenea. Alcuni si limitavano a riconoscere valide le riforme costituzionali progettate dal sovrano, cioè pressappoco se avessero avuto un diploma come quello che aveva dato a Asti o a Pavia sarebbero stati contenti. Altri invece arrivarono ad assumere la cittadinanza di località amiche del Barbarossa, cioè addirittura sconfessarono, diciamo, di essere milanesi. Altri ancora accettarono cariche nell'amministrazione imperiale dopo la sconfitta e la distruzione, anche se in precedenza troviamo i loro nomi tra i consoli che avevano sostenuto le prime resistenze contro Federico. I cronisti ci parlano di una mirabilis multitudo militum che plaude ai progetti dell'imperatore. Altri cronisti ci dicono che quidam de maioribus effettuarono una conspirazionem ut de civitate egrederentur, cioè vollero fuggire di nascosto. E si potrebbe continuare. Tutti sappiamo che i podestà stranieri che dal 62 al 67 governarono in quel modo che sappiamo la città, l'ex città, insomma, e la zona, ebbero sempre sotto di sé vicari emissi che erano cittadini milanesi e che andavano svolgendo funzioni tributarie, amministravano la giustizia e, insomma, collaboravano senza traumi psicologici, con il nemico. E costoro poi non ne risentirono nella loro, diciamo, carriera politica, perché poi, finito tutta la vicenda, riprendono ad avere cariche in città. Alla base delle loro scelte, indipendentemente dal giudizio morale che da ciascuno di noi può dare, sta la particolare posizione da essi occupata nel sistema sociale e politico cittadino. Ossia, è necessario ricostruire la loro provenienza. Ad esempio, il loro cognome denuncia spesso un'origine da località del territorio che erano le più periferiche nell'area di influenza milanese. Bisogna inoltre conoscere bene il posto che occupavano in città e fuori negli anni che precedettero la loro scelta imperiale, rendersi conto delle tensioni preesistenti e delle rivendicazioni da loro avanzate. Concludiamo quindi con la fasola che l'arrivo e l'azione di Federico I fu l'intervento catalizzatore di un reagente esterno che mise in moto un processo anticonformistico rispetto al comportamento della maggioranza. La fasola stessa si è in particolare occupata con minuziosa erudizione delle vicende della famiglia degli Scaccabarozzi, studiando le loro proprietà, le attività, i legami con gli altri gruppi e fermandosi su un esponente, Giordano, durante tutta la seconda metà del XII secolo e che visse e agì in Milano, e l'imperatore Federico ebbe ognora in lui un attivo e abile alleato. Anche nel campo ecclesiastico cittadino le divergenze erano profonde e anche qui si possono ritrovare amici più o meno aperti e convinti dell'imperatore. Qui non faccio il nome di chi ha studiato queste cose perché è presente, non voglio toccare la sua modestia. Se il monastero benedettino di Sant'Ambrogio stette sempre ad oltranza con Federico e prestò giuramento di fedeltà al suo antipapa, ma per 5 anni dopo la resa della città non poté essere celebrata alcuna messa nella basilica che pur si stagliava intatta in mezzo alle rovine di case e di mura circostanti, i canonici, che è un'altra cosa dal monastero benedettino, che stavano a fianco della basilica e erano in perpetuo antagonismo con i monaci, furono più cauti e oscillanti. Un preposito che intorno al 59 si era troppo esposto a favore del sovrano decise di lasciare la carica e di ritirarsi tra i cistercensi di Morimondo. La scelta del successore fu un affare delicato e complesso. Poi si nutrirono ancora speranze nella clemenza imperiale che invece andarono deluse fino a che, per restare fedeli all'obbedienza romana, tutti i canonici si allontanarono dalla sede come avevano già fatto l'arcivescovo e molti preti e vissero questi canonici anch'essi a lungo in un borgo come tanti altri cittadini milanesi. Avendo ora incidentalmente menzionato l'alto clero milanese, vorrei aggiungere che il casus belli tra i sacerdoti e gli ecclesiastici eminenti di Milano e il Barbarossa era costituito dallo scisma imperiale. Poiché Vittore IV era stato scomunicato in Duomo da un legato di Alessandro III, l'arcivescovo Oberto da Piovano, insieme a colui che sarebbe poi stato il suo successore, cioè il celebre Galdino, e a tanti altri preti della chiesa ambrosiana, presero addirittura parte alla battaglia di Carcano nell'agosto del 60 per far vedere a tutti che loro stavano apertamente dalla parte del comune, della città e quindi di Alessandro contro l'imperatore e il suo papa. Poi Oberto, Galdino e gli altri si allontanarono dalla città, che era ormai ridotta agli estremi, venendo forse meno ai loro doveri di assistenza spirituale e materiale verso i poveri concittadini, ma giudicando, diciamo, come un gesto politico, evitando di irritare ulteriormente Federico con un esplicito rifiuto alla sua inevitabile richiesta di adesione all'antipapa il giorno che fosse entrato in città. Invece nella regione lombarda non mancarono vescovi ligi ai voleri sovrani e in materia ecclesiastica e quindi anche suoi alleati in politica. Ma qualche anno più tardi, mutati i rapporti di forza, il citato Galdino, ormai cardinale legato pontificio, li deporrà dalla loro sede, svolgendo un'attività politica, ecclesiastica, diplomatica, patrimoniale di notevole rilievo e successo. Un esempio di vescovi filo imperiali ci è offerto dai titolari della chiesa di Vercelli, nel quale la posizione del vescovo è legata, intrecciata e complicata con quella della famiglia Bicchieri, studiata da Fonseca, dove si notano delle operazioni finanziarie intraprese per risollevare le sorti del partito imperialista locale. Per concludere quanto concerne Milano, mi sia permesso una rapida digressione per far menzione di alcune famiglie che stavano dall'altra parte, di cui appunto abbiamo così sinora un po' parlato in astratto, e ciò nell'intento di rendermi conto sempre meglio dei motivi che guidavano la scelta degli uni e degli altri pro o contro l'imperatore. Citerò i membri degli Ermenulfi, della famiglia la cui attività nella storia politico-militare milanese al tempo del Barbarossa fu particolarmente importante, occupando essi un ruolo eminente nella vita pubblica cittadina, e non sto certo qui a darne le prove che sono state date da chi li ha studiati. Nominerò i Veneroni da Trezzano, ma vengono alla ribalta sopra tutti gli altri i Cagapisto, in special modo un Gerardo, che direi è l'altra faccia del Giordano Scaccabarozzi, vero? Questi Cagapisto che furono i più tipici esponenti di quel ceto dei Cives, che era composto di uomini di legge, giudici, notai, di mercanti, di proprietari terrieri ma non legati alle strutture feudali e ai capitani, e costoro erano sempre pronti a allargare il giro dei loro interessi patrimoniali e finanziari e a imporre dure clausole ai rustici e ai coloni del districtus. L'atteggiamento imperiale che fu in loro costante fermissimo si spiega appunto con il fatto che erano gli esponenti di quel mondo di abitanti della città che vedeva colpite le sue posizioni di prestigio e di fortuna, sentiva minacciati i suoi beni terrieri e danneggiate le coltivazioni. E così torniamo al punto di partenza e al giudizio che già più volte abbiamo emesso, cioè che occorre ricostruire la situazione socio-economica di quel tempo e ambiente per capire gli orientamenti politici dei singoli gruppi e delle varie persone. I problemi vitali delle comunità erano allora, come sempre, quelli degli affari, dei redditi, delle esazioni, degli scambi, perché alla metà del secolo XII la società italiana era composta ormai di gente attiva, pratica, che non sopportava esosità di funzionari e imposizioni illegali, e che non voleva vedere andar perduto il frutto di tante sue fatiche. Nei documenti si parla continuamente di denaro, la cui circolazione risulta essere stata velocissima, dispersa per mille rivoli e rivolta a mete differenti. Ne aveva urgente necessità il Barbarossa, che cercava di ricavarne quanto più gli era possibile dall'Italia, sapendo che quest'ultima gliene dava in quantità maggiore della Germania. Alla loro volta i comuni ne producevano di continuo, ma ne abbisognavano ogni giorno di più. Così, da constatazioni di fatto, da radiografie di contenuti, emergono le ragioni delle scelte, si giustificano storicamente alleanze e inimicizie, senza aver bisogno di ricorrere ad entusiasmi patriottici o allo spirito di indipendenza. Non già che tali sentimenti vadano disprezzati o esclusi, ma non possono essere assunti come escludente alla loro volta i problemi concreti degli interessi economici o delle esigenze primordiali della esistenza individuale e collettiva. Ecco, ci fermiamo. Ma non è finito, non è finito, non è finito. Degli italiani pro o contro l'imperatore Federico. ma qui si considera solamente il primo aspetto, quello degli alleati, benché di solito sia più conosciuto ed apprezzato il secondo, gli avversari, potrebbe continuare ancora a lungo trattenendosi sulle numerose fervide città della Lombardia, passando poi a quelle del Veneto, non meno importanti e ben caratterizzabili. Quanto a Venezia, questa grande repubblica marinara richiederebbe un discorso a parte, ma basti dire che essa non si considerava inserita in nessuno dei due blocchi e si muoveva liberamente tra questi e quelli, avendo già da secoli preziosi documenti rilasciatigli dai sovrani a garanzia della sua indipendenza e svolgendo in tal modo un'azione preziosa, anche se non disinteressata, rivolta a superare le fratture più gravi e le opposizioni irriducibili. Se talora cessava di stare in bilico tra i contendenti, era perché uno di essi era divenuto troppo potente, quindi pericoloso per la libertà dei suoi traffici e minaccioso del suo retroterra, nel suo retroterra. Ma non appena quel segno di energia di Venezia aveva dato i suoi frutti, la Repubblica tornava fedele al suo programma di equilibrio politico e passava dall'altra parte. Per esemplificare, Venezia aiutò finanziariamente la Lega Veronese e fortificò lo spirito di resistenza dei Lombardi. Poi invece favorì la parte imperiale perché ormai il Barbarossa era indebolito e così riuscì Venezia a creare un'atmosfera favorevole ad approcci di pace tra gli avversari. Proseguendo il viaggio arriveremmo alla zona emiliano-romagnola, ricca di centri urbani e di fermenti politici variamente atteggiati. Una arruffata serie di conflitti, battaglie, assedi vide impegnate per anni le diverse città rivali tra loro. Rimini fu molto favorita da Federico. Faenza, Forlì, Ravenna si unirono anche in una lega filo imperiale. Invece i bolognesi stavano dall'altra parte. Ma prima furono sconfitti sul fiume Serio, poi si presero la rivincita e arrivarono ad assediare Faenza. Più tardi Bologna ebbe molto a che fare con il cancelliere imperiale Cristiano di Magonza. Neppure le Marche andrebbero trascurate, ma va detto subito che Ancona fu sempre ed esplicitamente ostile a Federico e tutti sanno il perché: era la base dell'intervento militare e finanziario dei bizantini in Italia. Passando dalla sponda adriatica a quella tirrenica della penisola, si incontra per prima un'altra repubblica marinara, Genova, ma di essa dirò qualcosa tra breve illustrando le fasi e le componenti della fondazione di Alessandria. Segue, all'incrocio di varie regioni del centro-nord dell'Italia, la sede di una grande casa marchionale, potremmo metterla a livello dei Monferrato e degli Andrati, quella dei Malaspina, di cui era titolare in quegli anni un obizzo che aveva accanto a sé un fratello Guglielmo e un figlio Moroello. La Lunigiana era in Pervia, ma con il passo di Montebardone, oggi della Cisa, dominava le strade di comunicazione che erano vitali per tante città. E quindi i Malaspina potevano permettersi, anche nei confronti del sovrano, di cui erano in senso lato alleati, parecchie libertà che agli altri feudatari erano inibite. E il citato Manselli dice: era un atteggiamento disinvolto e quei marchesi non mostrarono verso Federico né ossequio né almeno un riguardo formale. Ad esempio, Obizzo, durante già menzionato assedio di Tortona, cooperò alla difesa della città, non all'attacco da parte dell'imperatore. Però pochi anni più tardi si impegnò a fornire allo stesso Barbarossa uomini e denaro e ne ebbe il 29 settembre del 64 un diploma con larghe concessioni e la piena investitura dei suoi domini. Lo stesso Marchese Ovizio Malaspina fu ambasciatore imperiale in Sardegna e infine soccorse personalmente Federico nell'infausto 1167, che periodicamente ritorna nelle nostre relazioni, durante la sua fuga, indicandogli passaggi malnoti per superare gli Appennini. Subito dopo però anche Ovizio aderì alla Lega Lombarda e vi rimase ogni ora fedele, ricevendone in cambio cospicue somme di denaro a saldo dei suoi debiti. Ed eccoci in Toscana. Una regione troppo importante per essere liquidata con brevi accenni sulle sue condizioni politiche. Dirò subito che qui la situazione era più sfumata che al nord, cioè non ritroviamo né amici potentissimi dell'imperatore né fierissimi avversari. Inoltre, per quel momento, l'autonomia cittadina era ancora minore che in Lombardia. Naturalmente poi le cose mutarono nel 200, sappiamo tutti che cosa è per la Toscana, ma io parlo di questo periodo, e la stessa attività economica, poi molto fiorente, era allora più limitata e quindi questo può spiegare certe prese di posizione. Alcuni gruppi nobiliari erano abbastanza potenti, ma le città erano numerose anche se assai contrastanti tra loro. Appena eletto, Federico cambiò il suo rappresentante in Toscana mettendovi come margravio un suo zio duca di Baviera, Guelfo IV. Poi elargì molti diplomi ai conti Alberti e Guidi per confermare i loro privilegi e diritti, con l'intenzione di rimetterli in possesso di una autorità che le usurpazioni delle città, cioè quelle che l'imperatore considerava tali, avevano loro sottratto. Viceversa, i fiorentini inviarono in Lombardia contingenti militari in occasione dell'assedio di Milano, ma insomma si tratta in sostanza di schermaglie di attesa. Abbastanza significativa è la grande dieta che il margravio Guelfo citato convocò a San Genesio per la Domenica delle Palme del 1160, durante la quale non solo ovviamente il conte Guido Guerra, ma anche Pisa si pronunciarono per la fedeltà al Barbarossa. Invece Lucca e Firenze furono renitenti. Scoppiarono tumulti e Guelfo finì con l'abbandonare la Toscana. Lo scisma pontificio provocò una doppia elezione vescovile a Firenze e se un titolare di nome Giulio si dichiarò per Alessandro III, un certo Zenobio fu scelto invece dai partigiani dell'imperatore che non mancavano in città, ma di lui poco o nulla sappiamo. La venuta in Toscana del famoso Rinaldo di Dassel dopo il 62 rialzò le sorti del sovrano. Rinaldo, posto il centro della sua amministrazione nel castello di San Mignato, istituì podestà per lo più tedeschi in diverse città, ma non soppresse le cariche municipali ordinarie, né riuscì a far tacere le vivaci discordie intestine. Ne seguì in definitiva una gran confusione di giurisdizioni, tra molteplici funzionari che avevano ciascuno titoli e poteri che, secondo il rispettivo punto di vista, erano legittimi, ma non essendo ben delimitati tra loro né globalmente consonanti, finivano appunto col confondersi e provocare una serie di dispute giurisdizionali. Di volta in volta vi era chi riusciva a imporre la sua volontà, e cioè aveva la forza di far valere quello che egli riteneva conforme al diritto. E così la politica si modificava secondo le circostanze. Vi sono molti diplomi emanati dall'imperatore a favore ora di qualche città, ora dei conti, vi erano le riscossioni di tasse, la quantità d'entrate del tesoro regio. Ma è soprattutto la presenza di questi podestà ciò che caratterizza la Toscana in questi anni del governo di Federico, e su di essi ha trattato con tanta finezza il Sestan in un suo saggio ormai lontano nel tempo, ma sempre valido e utile. Per il periodo successivo, se vogliamo trovare una costante in tanto turbinio di scelte di uomini e di episodi, forse altra non emerge che quella della fedeltà di Pisa all'impero, prodigo a sua volta verso di essa di concessioni e privilegi. Pisa, sempre pronta con la sua flotta a fare spedizioni contro i nemici di Federico al sud, i Normanni, non ebbe mai al suo governo podestà esterni, quindi un segno notevole di benevolenza di Federico, e continuò a reggersi con i suoi consoli, fruendo inoltre di tutti i diritti comitali sul contado e in più ottenne da Federico il riconoscimento di una striscia di territorio costiero che andava da Civitavecchia a Porto Venere, praticamente tutta l'Italia centrale, insomma, eliminando così tutti i comuni interni toscani da uno sbocco al mare. Fu una cosa provvisoria che non ebbe poi effettiva consistenza, ma insomma sembra significativa per dire appunto la politica di Federico verso coloro che si può dire appunto fossero i suoi alleati. Per quel che concerne il contado circostante ad ogni città toscana, il citato Sistan ha così finemente osservato che quasi tutti i comuni toscani si servirono di quei teutonici, tra virgolette, posti da Barbarossa come podestà soprastante ai consoli, se ne servirono quali strumenti per metterli l'uno contro l'altro nelle contese relative ai confini dei singoli funzionari. E continua, queste sono parole del Sestan, questi funzionari, mandati in paese straniero, con poche forze militari, dovevano, per forza di cose, gravitare o verso o contro il comune. Ma se gli si mettevano contro, diventavano un'arma in mano ai signori feudali. Se favorivano il comune, la loro autorità scompariva e assorbita da quella dei consoli. Questa citazione mi pare sufficiente a indicare la differenza corrente tra Lombardia e Toscana in fatto di alleanze e opposizioni all'impero. Nella seconda regione, tolto il caso di Pisa di cui si è detto, potevano chiamarsi fautori della politica del Barbarossa anche coloro che in definitiva se ne servivano più che servirla, mentre gli amici di sempre, cioè i feudatari e i nobili, restavano complessivamente emarginati nel grande conflitto che arse in tutti quegli anni. L'Umbria costituiva per Federico il passaggio obbligato per puntare su Roma. Quindi essa richiamò ogni ora la sua attenzione, necessitandogli di avere la via libera e la regione tranquilla quando scendeva verso la sua capitale. Tuttavia, neppure in Umbria è dato ritrovare amici o avversari espliciti o potenti dell'imperatore. Già nel 1155, rientrando al nord dopo l'incoronazione, il Barbarossa mise a ferro e fuoco Spoleto, perché la città aveva catturato il conte Guido Guerra e i suoi compagni e li aveva spogliati dei loro averi. Poi, quando Federico si presentò davanti alle mura, i cittadini tentarono di pagargli un tributo con denaro falso. Era un po' troppo, e allora alla fine di luglio Federico perse la pazienza e vinse la resistenza locale, distruggendo tutta la città. Negli anni successivi furono emessi una serie di vari diplomi a favore di questi centri urbani della zona, Assisi, Gubbio, Città di Castello, Perugia, Foligno, e con questi diplomi si prendevano sotto la protezione imperiale quelle località, ma si riaffermava energicamente la giurisdizione sovrana, il servizium imperii, l'obbligo di pagare il fodro, che però era riscosso dai consoli cittadini. Anche numerosi vescovati e monasteri vennero presi da Federico sotto la sua protezione e garantiti da ogni indebito gravamine e da ogni illicita esazione, fatti sempre salvi in omnibus imperiali nostra giustizia et fortuna. Su Roma L'indagine sarebbe assai lunga e delicata se affrontassimo tutta la tematica delle relazioni ecclesiastiche di Federico Barbarossa, gli scontri con Adriano, la doppia elezione, eccetera, eccetera, ma già altri ha assolto tanto bene questo compito, per cui a me tocca solamente ricercare se anche in Roma l'imperatore ebbe alleati, non dico tra gli ecclesiastici in quanto tali, che quello, ripeto, è un altro discorso, bensì tra le forze politiche locali, fossero pure rappresentate nella fattispecie da uomini di chiesa, ma è un'altra cosa. E questo è appunto l'esempio, il caso di Vittore IV prima della sua scelta tumultuosa in San Pietro, cioè prima di diventare Vittore IV, per la qual ragione mi permetto, scusa, di dire che non è per me una figura umbratile, come mi pare stamattina è stato detto. Ottaviano di Monticelli, così lui si chiamava, era un grande feudatario, imparentato con i conti di Tuscolo, con altri nobili della Campania. Era cardinale di Santa Cecilia, da tempo conosciuto da Federico e in grande evidenza nella curia romana prima ancora che Federico arrivasse a Roma per la incoronazione. Sappiamo infatti che durante il viaggio del Barbarossa verso Roma Ottaviano di Monticelli si era presentato, ci dice Bosone nel Liber Pontificali che è stato ricordato stamattina, non missus a pontifice, cioè era andato lui, di suo, spontaneo, con un preciso programma, vero? A Viterbo si era presentato, di certo con l'intento di turbare il pacifico andamento delle trattative che vi erano in quel momento tra Adriano IV e il candidato alla corona. Infatti i tre cardinali che erano delegati ufficialmente a quel delicato compito di stabilire tutte le norme dell'incoronazione rimproverarono, ce lo dice sempre il Ottaviano, per questa sua iniziativa. Sappiamo poi che nel giugno 59, cioè la doppia elezione ebbe luogo, come sapete, nel settembre del 59, cioè quando non si sapeva ancora che Adriano sarebbe morto, nel giugno 59 lo stesso Federico donò ad Ottaviano la città e la contea di Terni in segno di grande stima e fiducia in lui, ma viceversa come un evidente segno di minaccia e di avvertimento verso il Papa Adriano. Quindi almeno come Ottaviano è una figura di rilievo. Poi come antipapa, vabbè, il discorso, ripeto, sarebbe tutto quanto, molto quanto diverso. Finora abbiamo concentrato la nostra attenzione pressappoco sul decennio 1154-1164. Cronologicamente seguì la breve stagione romana con la vittoria degli imperiali sull'esercito cittadino e con la solenne rinnovata incoronazione di Federico ad opera del suo secondo antipapa. Ma subito dopo si ebbe il già più volte ricordato caso della moria epidemica che colpì l'esercito e privò il Barbarossa dei suoi più validi e ostinati collaboratori. Seguì la triste risalita verso Pavia, con l'appoggio appunto avuto dai Malaspina attraverso gli Appennini, e poi lo smacco che ricevuto da Federico in quella città per l'insuccesso di una dieta che lui lì vi aveva convocato e alla quale quasi nessuno partecipò. Infine per le sconfitte subite ad opera di quelli che ormai erano i membri della Lega Lombarda. E anche in quell'occasione Federico ebbe al suo fianco i soliti i suoi alleati, Marchesi Guglielmo, Guido, Obizzo e via di seguito. La vicenda si conchiuse con la fuga lungo tutta la valle di Susa, mercé l'aiuto dell'ora citato Guglielmo di Monferrato, che condusse lunghe trattative con o suo fratello Uterino o suo nipote, non è che sia chiarissima il rapporto tra questi due, Umberto III di Savoia, il quale, Umberto, voleva far pagare caro all'imperatore il passaggio attraverso le sue terre. Abbiamo detto tutta l'ostilità di Savoia con il vescovo di Torino, eccetera, e quindi indirettamente con l'imperatore, siccome adesso l'imperatore ne aveva assoluto bisogno. Dicevo, i conti di Savoia malgrado la loro collocazione sociale, non si possono considerare dei veri alleati di Federico. Ma in questo momento, in questa particolarissima circostanza, Federico fu generosissimo, vero? E naturalmente aveva bisogno di scappare, vero? E in quell'occasione promise ad Umberto la restituzione di tutti i diritti toltigli e la concessione della sua grazia sempiterna. Noi possiamo dire in parole più nostre, povere se vogliamo, concrete, che era in ballo il dominio sulla contea torinese, e cioè il controllo della via Francigena che scavalcava il Cenisio e serviva al trasporto delle merci tra i due versanti alpini. La lunga assenza dell'imperatore dall'Italia di oltre 6 anni segna una cesura definitiva nella storia dei suoi rapporti con le forze politiche locali. Come dimostreranno i fatti del triennio cruciale 1175-1177, dalla tregua di Montebello alla pace di Venezia, che ha nel bel mezzo incastonato come un brillante l'episodio della battaglia di Legnano. Ma tra l'uno e l'altro dei due momenti, cioè nel pressapoco nel decennio tra il 64 e il 74, vi è un tournant decisivo, un fatto illuminante, e cioè la nascita della nuova città di Alessandria. Senza perdermi in discussioni, senza entrare in dettaglio, intendo non di meno sottolineare di questo notissimo e tanto esaltato avvenimento quanto concerne il mio tema, ossia l'incontro e lo scontro tra le forze opposte tra fautori e nemici del Barbarossa, dato che le mosse dei singoli esponenti di quel fatto appaiono chiarissime solo alla luce di tale criterio di valutazione e sono assai sintomatiche per stabilire le differenti posizioni dei contendenti. Per dire tutto in poche parole, il dualismo tra amici ed avversari dell'imperatore è la miglior chiave di lettura della vicenda, è il filo conduttore nel turbinio degli episodi e nella contingenza delle prese di posizione delle molteplici componenti storiche che agivano in quel momento. L'ampia e originalissima indagine che ha compiuto il collega Geo Pistarino per inserire, come suona il titolo del suo fondamentale saggio, inserire Alessandria nel mondo dei comuni, questa indagine ci ha mostrato, tra l'altro, che la fondazione di quella città fu diretta assai più che contro il marchese di Monferrato, come tradizionalmente si dice, si ripete, a tenere aperta la via dei traffici che da Genova irradiavano nella pianura padana. In precedenza la via era aperta e, diciamo pure, faceva capo, ossia un punto era Pavia. Ora invece che la posizione filo imperiale di Pavia era divenuta così esplicita, quando gli imperatori non c'erano in Italia, appunto la cosa era molto meno esplicita, e la funzione antimilanese assunta da Pavia indusse Genova a creare un nuovo punto d'appoggio, a costruire un sistema che soddisfacesse ad una situazione politica ed economica profondamente mutata e assai complessa. Di conseguenza, il moto associativo locale dei piccoli nuclei rurali di Camondio, Marengo, Foro, Bosco venne appoggiato e stimolato da Genova e consentì di costituire un nuovo caposaldo cittadino, queste sono parole di Pistarino, adatto a rispondere perfettamente ai requisiti richiesti dalle nuove prospettive del mercato ligure padano. Nasce così Alessandria. Si potrebbe obiettare che Genova era stata finora moderatamente amica di Federico, quindi non le conveniva, in vista dei suoi preminenti interessi economici e commerciali, romperla con lui, che poteva ogni ora rivalersi, come abbiamo visto, dell'eterna rivale di Genova, cioè Pisa. Ma il decantato guelfismo che fu sempre visto implicito nella fondazione di Alessandria, fu, ripeto sempre a giudizio del Pistarino, un'azione svolta in sordina, tempestivamente, nella scelta delle circostanze, senza impegni che potessero compromettere risultati a lunga scadenza. Fu insomma un abilissimo gioco di equilibrio tra le parti senza mai giungere al limite di rottura. Questa storia dunque fu assai meno intessuta di problemi ideologici che di esigenze di carattere mercantile, finanziario, anche se la coloritura politica di volta in volta fu quale gli eventi suggerivano. Poi, in breve tempo, anche gli scopi che Genova si era prefissi vennero oltrepassati. Però rimane il dato di fatto di un preciso programma che inquadra vicende in apparenze lontane o isolate, e tale disegno era, in breve, nelle sue linee essenziali, questo, conviene ripeterlo ancora una volta. Bisognava tutelare la strada del Monferrato per la valle della Bormida verso la Lombardia. Conveniva trovare stretti collegamenti tra la Riviera Ligure e il Piemonte più verso la Lombardia, cioè Vercelli-Novara, tra la linea appenninica e gli ampi spazi pianeggianti intorno al corso del Po, scavalcando le possibili minacce di marca imperialistica, cioè Pavia, e aprendo nuove vie lungo i fiumi minori, la Scrivia, l'Orba, oltre naturalmente il Tanaro e la Bormida, dove, all'incrocio dei quali è nata appunto Alessandria, ovvero aprire strade che toccassero città fidate come Tortona e Piacenza. Ovviamente anche il marchese di Monferrato vi ebbe la sua parte. Ci dice Romualdo Salernitano che homines agrarii delle sue terre mossero verso Alessandria, e ancora che nobiles et populares viri erano oriundi de terra Martionis. Quindi c'è non una netta opposizione, diciamo, c'è così, insomma, un adeguarsi alla realtà e in certo senso sfruttarlo. L'opposizione al nuovo centro da parte del marchese non fu così totale e dura come si soleva ripetere. Egli nel 72 venne sconfitto da forze astigiane, alessandrine e di altre regioni, ma subito dopo strinse un trattato che dava il riconoscimento giuridico allo status civitatis di Alessandria e sistemava i complessi problemi delle proprietà terriere della zona, facendo inoltre il marchese garante presso l'imperatore della fedeltà della recente nuova vigorosa creatura. Anche con altri feudatari circostanti, marchesi del Bosco ad esempio, che non ho ricordato naturalmente perché non è che potevamo parlare di tutte le famiglie feudali del Piemonte, i rapporti si chiarirono abbastanza presto, a conferma che se da un lato Alessandria fu assai meno antifedericiana di quello che si ipotizzava in passato, ciò che non esclude i ben noti gesti di forza del Barbarossa contro di essi, l'assedio che poi dovete togliere, la rifondazione, eccetera, ma non si devono dimenticare anche i diplomi a suo favore e il riconoscimento ufficiale che gli diede. Se Alessandria fu dunque meno antifedericiana, la sua origine va non di meno ricercata nel dualismo tipico di quel periodo tra fautori dell'impero e quelli che volevano maggiore autonomia, libertà di manovra, possibilità di sviluppo, e tutto questo sul piano concreto delle realtà economiche, dei bisogni di vita quotidiana, non per effetto di schemi dottrinali o di rigide contrapposizioni politiche. La panoramica ora compiuta, se è stata troppo lunga per la pazienza dei gentili ascoltatori, è risultata d'altra parte troppo sommaria rispetto ad una analitica esegesi delle fonti che, più che qualche esempio isolato di comportamento in circostanze e luoghi differenti, offrisse un'adeguata documentazione della concezione politica federiciana. È necessario tuttavia compiere adesso questa seconda tappa, molto più breve, dico subito a vostra consolazione, ed affrontare direttamente il tema del potere, quale emerge da testimonianze documentarie di indubbio valore, non per stendere una dissertazione giuridica sui caratteri dell'autorità sovrana a quel tempo e in quell'ambiente, bensì, come ho cercato di fare finora correlativamente al compito affidatomi con la presente relazione, per comprendere concretamente i motivi delle scelte che sono state compiute dalle varie forze politiche e sociali italiane nei confronti del titolare di questo potere. In altri termini, se arriveremo a conoscere esattamente il programma di governo del Barbarossa e di riflesso penetreremo nella struttura ideata per attuarlo puntualizzando i molteplici provvedimenti presi per realizzare di fatto questi suoi propositi, ritengo che conseguentemente giungeremo anche a fissare quale posto finissero per occupare i singoli alleati e collaboratori, che cosa dovevano fare e che cosa potevano ricevere, come essi giustificassero il loro comportamento senza infingimenti o meschini compromessi, ma in osservanza del servizio dovuto ad un superiore legittimo per l'attuazione del compito supremo assegnato ad ogni azione civile secondo la mentalità medievale, ossia il mantenimento dell'ordine, l'attuazione della giustizia, la salvezza della pace mondiale. Per procedere con criterio occorre anzitutto tenere distinti, più di quanto di solito non si faccia, i due titoli e quindi i due poteri, le due funzioni, le due prerogative di cui Federico e naturalmente tutti gli altri governanti che erano state nelle sue condizioni era fornito: imperatore ma anche re d'Italia. Solo come re d'Italia il Barbarossa poteva rivendicare alcuni diritti su questi suoi sudditi. Tuttavia è anche facile intendere come, a causa della sussunzione di questa carica di re sotto quella imperiale, molti italiani finissero con essere restii ad ubbidire ad un estraneo e non assolvessero con impegno gli obblighi che derivavano loro dall'essere membri del regno. Ciò è tanto più vero alla metà del secolo XII, in quanto proprio allora l'impressione che l'impero fosse ormai una creazione germanica, o come è stato detto, uno strumento dell'egemonia teutonica piuttosto che un organo del potere universale, uso queste parole senza volergli dare un giudizio di valore, è un dato di fatto, diciamo, lo hanno detto, era nettamente avvertita in quella che possiamo chiamare la opinione pubblica di allora. Molto opportunamente Gualazzini ha fatto osservare che in quel momento vi erano parecchie persone in Italia che ambivano di conservare e rivitalizzare l'autonomia sostanziale del Regno d'Italia come organo politico e amministrativo, mentre alla prova dei fatti esso risultava sempre più debole di fronte al prepotere imperiale. Tuttavia quel regno era pur sempre ancora ritenuto esistente e degno di autonomo funzionamento, dotato di una sua individualità che non di meno risultava poi difficile da definire nei suoi esatti termini, sempre perché appunto veniva, per così dire, assorbita dall'altro titolo imperiale. Da una serie di elementi a nostra disposizione sembra lecito giungere alla conclusione che mentre le potestà imperiali si erano venute accrescendo a danno di quelle regie, viceversa, sussisteva ancora una certa aliquota di persone che intuiva la validità e l'opportunità di una più larga autonomia del Regno d'Italia, pur sempre nell'ambito dell'impero. È superfluo ripetere che una simile indagine aiuta anch'essa a far capire i motivi della posizione degli alleati o degli avversari di Federico e le ragioni di determinate scelte e decisioni. Ma dopo questa indispensabile ma e utile premessa, ma pur solo sempre premessa, urge ora proseguire nella ricerca, e allora il problema di fondo risulta quello della esatta e obiettiva comprensione della natura del potere supremo, non rigidamente assunto come un sistema chiuso, unitario, ripeto, non come una dottrina, ma colto nella concreta pluralità delle sue forme di azione politica e nei metodi di esercizio. Ed ecco subito una prima risposta. Federico, con una discreta dose di abilità diplomatica e di flessibilità politica, mirò realisticamente ad ottenere non il monopolio effettivo dell'autorità di governo, che in quel tempo, in quella situazione sarebbero state un assurdo, bensì a livellare e coordinare le varie forze italiane che erano scatenate le une contro le altre in una concorrenza territoriale sfrenata. In tal modo, all'anarchia che tanto aveva colpito lo zio Ottone di Frisinga, ed è stata già ricordata appunto questa sua descrizione della condizione dell'Italia, all'anarchia veniva sostituita una molteplicità di poteri riconducibili ad un coordinamento imperiale superiore, abbassando i più forti, mettendo sullo stesso piano giuridico di subordinazione i vari enti che emergevano nel territorio italiano soggetto all'impero. Vi furono però due rivendicazioni sulle quali Federico si dimostrò sempre inflessibile: i cosiddetti diritti di regalie e le entrate fiscali. Sul primo punto, le regalie, che trovò nella seconda dieta di Roncaglia la sua più esplicita e dettagliata formulazione, fervono da tempo le discussioni tra gli studiosi per individuare le caratteristiche e le applicazioni di tale richiesta sovrana. Dalla ricostruzione del testo, si pensi alle fortunate scoperte del colore, alla sua interpretazione, dai richiami al precedente diritto giustizianeos, alla parte che vi ebbero i ben noti giuristi bolognesi che stavano a fianco di Barbarossa in quella circostanza, tutto è stato minuziosamente sviscerato e variamente valutato. Ai nostri fini, però, l'argomento si presenta solamente come il banco di prova sul quale misurare i limiti e la solidità dell'alleanza e fedeltà di alcuni esponenti politici italiani nei confronti dell'imperatore. Ed allora pare lecito affermare che Federico mirasse a ricostituire il suo Stato poggiando sui nessi feudali, facendo derivare ogni potere pubblico dall'investitura che egli concedeva ai vari dipendenti, nobili, ecclesiastici e anche comuni, attuando così una politica variamente articolata ma chiaramente finalizzata al ristabilimento dei suoi diritti supremi. Il giuramento di Fidelitas divenne per così dire il fulcro di tutto il sistema, l'asse portante della costruzione, e questo spiega perché ne sia rimasta rivalutata la posizione delle grandi famiglie nobili dei feudatari, non per amore di una restaurazione del passato, non come segno di arretratezza di una politica ultraconservatrice, ma per risolvere il problema istituzionale con un richiamo alle forme più tipiche del diritto feudale. Quei nobili che erano in grado di offrire all'imperatore uomini d'armi e mezzi militari diventavano i suoi migliori amici, dato che la prima, più elementare esigenza del sovrano nella variegata e mutevole situazione dell'Italia, che era tale da condizionargli ogni mossa, la prima esigenza era quella di riuscire a conservare il controllo dei posti chiave, di avere basi sicure, punti di appoggio per il mantenimento e l'acquartieramento delle sue milizie. Federico pensò a recuperare i grandi beni fondiari, a ricostruire i palazzi regi, a dare vita a quadri amministrativi funzionanti e soprattutto ad assicurarsi proventi fiscali al fine di finanziare le spese di guerra. Viceversa, egli si oppose con forza sia a un decentramento localmente troppo spinto, sia alle esagerate autonomie cittadine, non vagheggiando già, come qualcuno addirittura è arrivato a dire, la creazione di un autentico Stato di tipo moderno, cioè un organismo istituzionalmente definito e funzionale, che mi sale proprio troppo, ma moltiplicando i vincoli con enti e persone nel quadro del riconoscimento anche di poteri intermedi fidati ed efficienti. Il legame feudale apparve ancora nel secolo XII lo strumento più comodo e pertinente per regolare i rapporti tra l'imperatore e i suoi dipendenti, per estendere la potenza politica del primo, salvando una certa libertà di manovra dei secondi, per raggiungere cioè un equilibrio tra le esigenze unitarie dell'uno e un anelito di pluralità degli altri. Mi pare che il Tabacco, con la solita finezza quando si occupa di questi temi, abbia giustamente conchiuso una sua disamina dell'argomento con queste considerazioni. Il tema delle regalie diventa così il fondamento giuridico delle operazioni imperiali. Fu un criterio applicato con spregiudicata flessibilità, come uno strumento di riconoscimento formale e moltiplicazione di poteri altrui nell'esercizio dell'autorità federiciana in Italia. E così si trapassa al secondo punto, e cioè il sistema fiscale del governo imperiale. Un aspetto che è stato anch'esso oggetto di ampie ed accurate ricerche critiche, ma che al solito nella nostra prospettiva costituisce sostanzialmente solo un test della fedeltà al sovrano, un'occasione per vagliare i rapporti correnti tra superiore e inferiore, intorno a un argomento dolente e scottante, quale è sempre stato ed è in ogni tempo e luogo quello di pagare le tasse. Però, al momento, più che dei soldi veri e propri, cioè entrate, uscite, imposte, eccetera, ci occupiamo degli altri fattori costitutivi della politica finanziaria del Barbarossa, cioè la rivendicazione dei possessi, la difesa di punti strategici, l'acquisto di obiettivi militari e via di seguito, con le conseguenti spese connesse a tali operazioni e con la necessità derivante di avere fondi e introiti a disposizione per spendere. Il famoso Fodrum, di cui si parla continuamente nei documenti di quel tempo, era stato in passato, più che una somma di denaro da dare come tassa, un servizium regis, magari un'imposta in natura, e allora si comprende come ancora una volta potessero essere i nobili i primi destinatari, i migliori offerenti, anche se, quando si trattava invece di comuni, i termini della questione si modificassero subito e divenisse allora soltanto più un affare di cifre da regolare tra le parti accordandosi sull'entità dell'esborso e sui modi di versamento. Siamo ogni ora nella sfera degli interessi concreti, delle manovre realistiche compiute con la consapevolezza dei bisogni e delle possibilità reciproche. L'urgenza di rispondere a necessità inderogabili sia per l'uno che per gli altri faceva trovare di volta in volta le soluzioni specifiche più adatte ai condizionamenti ambientali, senza prioristiche preclusioni o insuperabili opposizioni. In uno dei testi ritrovati dal Colorni si legge per inciso, e mi sia permesso prendere la formula come emblematica anche al di fuori della sua particolare collocazione e finalità in quel testo, secundum diversa loca, diversa erat prestatio. E ancora, dabatur autem tributum, secundum diversa tempora, diverso modo. Intorno a questa materia non occorre adesso entrare in dettagli ulteriori, distinguendo i vari tipi di Reichsgut, di possessi, patrimoni fondiari, beni fiscali, eccetera. Ma sarà sufficiente ripetere sulle tracce del Averkamp, che tanto ha indugiato in proposito, che l'intento di Federico era quello di tenere sotto il suo controllo politico il maggior numero possibile di signori, di chiese, di comuni, di città, per farne una fonte di proventi, anche prescindendo dal precedente titolo giuridico vero e proprio in base al quale le proprietà e i diritti erano a quelli, comuni, chiese e signori, pervenuti e spettavano loro, ma basandosi solamente sulla sanzione imperiale da lui concessa quale espressione e garanzia di dominazione e di potenza di comando. In altri termini, il Barbarossa elargì una quantità di privilegi che confermarono l'appartenenza di vastissimi complessi speciali iure ad cameram domini imperatoris, consentendogli così la riscossione di entrate tali da alleviare le sue preoccupazioni finanziarie. Sia chiaro non di meno ancora una volta che usando questi termini finanze, politica fiscale, non diamo loro il significato specifico odierno di somme di denaro, di cifre quantificabili, ma la intendiamo, come si concepiva allora, quali entrate genericamente indicate. E valga l'esempio addotto dal Brühl, di cui tutti conosciamo la competenza in siffatto e in tanti altri campi. L'elenco di quelle curie que pertinent ad mensam do regis romanorum, che è certamente di epoca sveva, dice il Brühl, cita 28 beni lombardi, non tutti ora facilmente identificabili. Di essi, su 28, solo 9 versavano importi di denaro, da 200 a 2000 marchi. Gli altri 19 prestavano servizi in natura, come era di regola in Germania. Lo studioso citato conclude: proprio questa forma mista di prestazioni in natura e in denaro, nella quale è numericamente superiore la forma di prestazione in natura, mi sembra caratteristica ancora per la metà del secolo XII, ossia in epoca federiciana. Gli alleati del Barbarossa, feudatari e città, ebbero un ruolo primario in tutta questa vicenda, e con i loro beni, più terrieri quelli dei primi, feudatari, più mobili, denaro, quelli dei secondi, le città, formarono i pilastri della potenza sovrana, furono i centri di radiazione di una presenza che voleva farsi sentire più vicina e attiva nel paese, a differenza degli ultimi decenni. Divennero gli strumenti di un'azione rivolta all'arricchimento e al riordinamento di una forza politica che, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza, intendeva inserirsi nel tessuto amministrativo della penisola e ricavarne i massimi vantaggi possibili, in conformità d'altronde con una tradizione culturale, quella dell'impero, vigente da secoli e continuata anche in seguito, pensiamo a Dante, che assegnava all'impero un posto e gli conferiva una funzione in Italia, ma in coesistenza con una pluralità di autonomie, di signori e di città. Tirando le somme e chiedendo ancora una volta scusa, io ritengo che è forse troppo drastico il giudizio di chi ha visto la grande feudalità dopo l'epoca federiciana infranta e a pezzi, ovvero ha considerato le forze feudali extracittadine che persistevano nel loro isolamento come storici anacronismi, non assimilabili. Tuttavia, considerando l'altissimo costo finanziario della presenza del Barbarossa in Italia, a cui va aggiunto il costo in vite umane per la distruzione di cose, e rapportandolo ai risultati ottenuti, appare evidente che l'imperatore non calcolò con esattezza le forze a sua disposizione da una parte e le formazioni politiche in spontaneo sviluppo dall'altra parte. Egli era, a mio avviso, consapevole delle novità sopraggiunte e non era neppure alieno dall'adeguarsi in qualche modo a questo mondo che sorgeva, ma vide non di meno la sua azione politica, l'esercizio della sua potestà, sempre ancora solamente sub specie del rapporto feudale, della sua personale concessione, restituzione, abrogazione delle regalie e degli altri diritti. Il suo atteggiamento finì col rivelarsi oscillante e talora caotico e condusse alla formazione di larghissime solidarietà e di potenti schieramenti a lui avversi malgrado le discordie locali. Ciò impedì per decenni che si aprisse la possibilità di soluzioni più tempestive e meglio rispondenti alle effettive esigenze di equilibrio nelle varie forze italiane. Il governo dello Svevo non riuscì in definitiva ad aiutare efficacemente i suoi alleati, i quali non sono né dei traditori della patria né dei ciechi reazionari, ma partecipavano a strutture ormai inadeguate e non più radicate nel tessuto della società italiana di quel secolo. L'avvenire avanzava percorrendo altre strade e il progresso storico era ormai impersonificato da gruppi che emergevano da un contesto sociale più giovane e vitale. Di dover a nome di tutti ringraziare il professor Brezzi per questo suo vastissimo panorama che ha abbracciato, nonostante i propositi limitativi iniziali, ha abbracciato in realtà tutta l'Italia comunale. D'altra parte, è un non credo che meno importanza debba essere data alla parte conclusiva, questa parte conclusiva problematica che io ritengo sarà, o può darsi che sia, uno degli aspetti più, diciamo così, intensi della discussione che immediatamente succederà. Io desidero fare alcune considerazioni. Confesso che non ho delle domande precise da rivolgere, ma spero che mi permettiate di fare alcune considerazioni sulla relazione del professor Brezzi, che veramente mi trova concorde, direi, in ogni punto, soprattutto per l'impostazione storiografica che ha dato alla sua relazione. Impostazione relativa ai punti, sono tanti i punti importanti, naturalmente io ora vorrei solamente coglierne qualcuno e fermare un attimo l'attenzione su quelli. Dicevo, l'attenzione sul fatto che richiama la nostra attenzione, l'attenzione di tutti, sul valore che acquista l'elemento economico e l'elemento sociale relativamente agli alleati, in questo caso di Federico Barbarossa, dicevo il valore che acquista l'analisi di questo elemento nel contesto generale. Ma a parte queste considerazioni generali, ci sono poi un'altra cosa che mi preme sottolineare, anzi altre due, e mi scuso se rubo qualche minuto al dibattito. Cioè, quando si è riferito alla Fondazione di Alessandria come un elemento dei problemi relativi ai mercati tra la Liguria e la Padania, se è così fatto per usare un termine che conosciamo, mi ha richiamato immediatamente l'attenzione, mi ha richiamato a memoria un altro episodio dalla parte opposta della pianura padana, che credo rientri in un certo senso nello stesso discorso, ed è l'entrata di Ferrara nella Lega Lombarda. Ferrara, diciamo così, l'elemento cittadino ferrarese, solo perché non è molto nota questa costituzione, quindi mi permetto di illustrare. mostrarla, il movimento cittadino ferrarese proviene, che regge il governo ferrarese, proviene dalla grande proprietà terriera, proviene dalla vassalità vescovile, non c'è nessuna traccia, per quello che io conosco, di che al potere ci siano elementi appartenenti al ceto mercantile. Questo non esiste. Allora, naturalmente, queste mi sembrerebbero le premesse perché questa città sia, potesse essere, naturalmente si tratta di una, in teoria, perché che questa città potesse essere un possibile alleato di Federico, così nella visione, diciamo così, tradizionale dello scacchiere delle alleanze. Invece no, Ferrara entra nella Lega Lombarda, ma non so con quanta volontà propria entra nella Lega Lombarda. E perché? Perché c'è aquam padi aperire et apertam temere. Questo è uno dei punti fondamentali delle condizioni con le quali le altre città della Lega Lombarda obbligano la città di Ferrara, cioè la navigazione del Po, che è quella grande via di traffico fluviale, la più Lopez diceva l'autostrada del Medioevo, l'autostrada del Medioevo, e il perché appunto, ecco, quindi questo è un altro, mi pare, un altro elemento che ci ricongiunge alla, che ci ricongiunge in questi problemi sia della Lega sia della politica imperiale. E ancora un'ultima considerazione, poi chiudo, ed è quella relativamente all'ultima parte della relazione del professor Bresti, quella relativa allo Stato riorganizzato su basi feudali da Federico e la vivacità della feudalità a quest'epoca, e direi, io sono perfettamente d'accordo su questo punto, tanto più poiché vediamo ancora sia nel corso del XII, della seconda metà del XII secolo la fine, sia ancora nel corso del XIII secolo come l'elemento, diciamo così, non feudale, come l'elemento, diciamo così, economicamente feudale, quello che da un punto di vista della storia economica chiamiamo feudale, cioè un certo tipo di possesso, di proprietà e di gestione economica, è ancora quello che ha una forte presenza nell'economia delle città. Quello dallo scorso abbiamo discusso su questi argomenti a lungo, cioè c'è il sistema di produzione e l'attività economica si continuamente va avanti per molto tempo e si trascina a lungo proprio con questi elementi fondamentali. Quindi sono perfettamente d'accordo su tutta questa impostazione e ringrazio molto il professor Bresti per tutto quello che ci ha detto. Frau Bocchi ist vollkommen einverstanden mit Professor Bresti über die... Professor Bocchi dire gentili parole e la ringrazio soprattutto dell'esempio che ha portato di Ferrara, e questo mi permette di dire che effettivamente la mia relazione, come vedete, è carente di un'analisi che si estendesse effettivamente a tutto il territorio, cosa impossibile non solo da fare qui, anche in certo senso richiederebbe tutto un lavoro e una ricerca molto più lunga di quanto fosse possibile per la relazione che dovevo tenere qui. Comunque, appunto, questo dice come caso per caso andrebbe analizzata la situazione degli amici, degli avversari, di coloro che componevano i vari centri, le località e possedevano i vari luoghi, eccetera, eccetera. Il caso di Ferrara, che io non avevo assolutamente toccato, come non avevo toccato, avevo detto, tutta la zona da Milano fino a Venezia. Ci abbiamo lasciato qualche cosa. Benissimo, ecco. Quanto all'ultima osservazione della professoressa Bocchi, ecco, io la ringrazio di quello che ha detto. In questo senso, mi pare che la recente storiografia, soprattutto direi proprio tedesca, e io all'inizio ho fatto questo caloroso e sincero ringraziamento per i contributi che questi giovani studiosi tedeschi hanno regato, ha veramente modificato un po' le nostre conoscenze sulle strutture sociali, la presenza di questi vari gruppi, nuclei, dicendoci che il feudalesimo, che così grosso modo una visione molto stereotipata, a un certo punto scompariva dalla scena, o quasi, vero? E doveva tutta la scena essere occupata da forze nuove, dei comuni, eccetera. In realtà il feudalesimo viveva i suoi limiti, con le sue particolari posizioni, è chiaro, ma insomma viveva, e anche questo stesso fenomeno così grosso, così importante del comune va rivisto, perché nella composizione dei comuni risulta proprio nettamente dall'analisi dei documenti, vero, quanto ancora incidesse questo ceto, possiamo andare classi, diciamo così, questi gruppi, vero, questi gruppi, insomma, così, che noi chiamiamo appunto feudali. E questo quindi spiega una certa qual politica di Federico, che non è appunto una politica così, o, come dire, appunto reazionaria, retrograda, eccetera, eccetera, ma risponde a una certa realtà, e adesso penso che ci sia anche qualche altro che interverrà a dirci che questo poi di fatto si verificava anche altrove. Comunque adesso sentiremo. Professor Frisi, hat Frau Gorki Herrn Dankwiese gesagt und c'è il tempo per tutti. Prossimamente, molto lieto di aver ascoltato la relazione del professor Bressi, che io condivido profondissimamente le conclusioni, e lo dico soltanto perché in genere di storia del diritto non arriva a quelle conclusioni, quindi non lo dico per ragioni, ma per ragioni di sostanza. Cioè, ruolo della federalità in Italia, allora, prima e dopo. Direi addirittura che il ruolo centrale non spetta alla città, non spetta proprio al sesso. Comunque, ho l'impressione però che quando noi parliamo degli alleati di Federico, si può di Federico V, scusate, mettiamo molto sullo stesso su un piano gli alleati e Federico. Ho l'impressione però che gli alleati, per dir così, siano più importanti di Federico. Cioè che, in sostanza, in una realtà feudale, di un imperatore non molto presente in Italia, scarsamente presente, le forze reali che contano sono le forze italiane. Ciò spiega ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Dovrei dare una brevissima indicazione sul ruolo dei giuristi bolognesi al Cagliari, che da qualche tempo non lo utilizzerò, se non vi farò perdere tempo. Dirò però soltanto questo. Che, come dimostra anche la situazione testuale, cioè il fatto che la definizione delle regalie si ritrovi dopo nel Corpus Iuris, mentre non si ritrovano gli altri testi che così fortunosamente Codogni ha trovato, dimostra quello che vorrei accennare semplicemente. Il fare un elenco delle regalie non vuol dire nulla, vuol dire solo concordare sul complesso dei diritti che spettano alla corona. Si tratta poi di vedere chi e come si deve gestirne, senza dimenticare che la corona fino a quel momento lì li ha fatti gestire o lasciati gestire da altra parte. Tanto è vero che in presenza pur dello sviluppo comunale, che io reputo la larga base feudale, l'elenco delle regalie si trova nel corpus iuris civilis, cioè le norme che interessano ai comuni, le regalie si trovano nel corpus. Non si trovano le altre norme, precisamente la norma sui tributi, la norma sulla giudizio e la norma sui palazzi, che è stata richiamata dal professor Bressi, che è stata trovata, ritrovata dal professor Toro. Quanto alle conclusioni del professor Bressi, forse il professor Bressi non ha portato fino in fondo il suo discorso, proprio nella, come dire, nella piena adesione al suo pensiero. Certo. Quando il professor Bressi distingue nella componenazione, nei fini dell'azione politica di Federico, di questo sovrano dunque debole, di questo sovrano feudale, che più il centro degli onori che il centro dei poteri, che più che un titolare di poteri, il titolare è quello che distribuisce degli onori, distingue i diritti delle regalie dal sistema fiscale come strumenti base del suo governo, io mi chiedo, ma il sistema fiscale, cioè i tributi, non fanno forse parte delle regalie? cioè in realtà non si tratta della stessa cosa. Quindi un modello feudale è utilizzato da Federico II per governare delle forze che in realtà gli sfuggono sempre di più e che in realtà sono le forze dell'avvenire. Perché è vero che dell'avvenire ha con sé delle forze comunali, ma le forze comunali non esegono. Le forze egemoni sono contro, cioè a Como, a Cremona, cioè tutta l'area degli invidiosi, degli invidiostes di Milano. E allora, e concludiamo, d'altra parte, se Federico non usasse lo strumento feudale per governare, o per tornare a governare, quale mai strumento utilizzerebbe? Il principio nazionale non c'è. Il principio dinastico, ve lo raccomando, una dinastia sostanzialmente nuova. I poteri territoriali non ci sono, se non governa con i poteri feudali, con che cosa può governare il sovrano feudale? Professor Colliva per avere portato il peso della sua autorità e sua competenza giuridica a sostegno appunto di una impostazione che io avevo dato a questa mia relazione, e rispondo brevissimamente a, direi, quattro punti che lui ha messo in particolare evidenza. Il primo, dice, prendo questa formula che lui ha usato, che poi va appunto spiegata, ma insomma, gli alleati in Italia di Federico erano in fondo più importanti di lui. Ecco, mi permetterei di dire, sì, si può anche accettare questa formula, ma mi permetterei di dire questo, che però gli alleati sono stati messi in moto dalla presenza di Federico, cioè il fatto che un imperatore tornasse in Italia, vi soggiornasse, sì, non sempre, ma insomma ci è venuto parecchie volte, c'è stato anni interi in certi casi, e che quindi la sua presenza, il suo governo, tutti i suoi programmi eccetera finissero col mettere appunto in moto tutta una certa situazione, ha fatto sì che questi alleati, di cui riconosciamo tutto il peso e l'attività, potessero fare quel che hanno fatto. Finché l'imperatore non c'era, appunto, c'era stata quella fase in cui in fondo i comuni avevano un po' fatto quel che avevano voluto e nei confronti dei quali questi feudatari forse si erano trovati, se non altro senza, in difficoltà, se non altro senza un appoggio, diciamo, dietro le spalle. Quindi la formula è esatta, direi, con questa precisazione che la presenza di un Federico, e ripeto, non come persona singola, voglio dire, con tutto quello che portava con sé, questo aveva certamente una funzione, un reagente, eccetera. Seconda cosa concerne i giuristi bolognesi a Roncaglia, e qui io appunto avevo dichiarato esplicitamente che non entravo nel merito della discussione così vivace, così importante circa l'apporto di questi giuristi, la posizione che loro avevano, quale tipo di diritto li portavano eccetera, e quindi va bene, e sono grato di quanto ha detto Colliva in proposito. Terzo punto concerne questo rapporto tra fisco e regalie, e in fondo mi pare siamo perfettamente d'accordo, io ho distinto le due cose tanto per comodità espositiva, direi, prima ho parlato di una cosa, poi di un'altra, però in tutti e due i casi, quando si parlava di regalie già venivano fuori le entrate e le spese, eccetera, e quando si parlava di fisco e di entrate e di tutto questo, dicevamo il motivo per quale su questi denaro o questi contributi in natura venivano dati. E il quarto punto, e quindi va benissimo, appunto portiamo avanti pure il discorso fino alla fine. Il quarto punto dice: ma allora non si poteva governare in altro modo che con i modelli feudali. Benissimo, e anche su questo siamo perfettamente tutti d'accordo. Vorrei dire, e non so se mi si è permesso così una specie di esemplificazione, diciamo, anacronistica, questa parola feudali È un po' come la parola democratico oggi, siamo tutti democratici, ma poi ognuno è democratico a modo suo, e quindi feudale, il feudale di Ottone I non è il feudale poi di Federico Barbarossa, perché i tempi sono cambiati, il contesto è diverso, la possibilità di applicazione cambia, ecco, e quindi dico, è feudale, e su questo direi siamo d'accordo, e chi no, dice di no sbaglia. Chi tira fuori appunto altri esempi, altre formule, direi sbaglia. Però poi il problema è saper bene che cosa negli anni 50, 60, 70 del secolo XII significava essere feudali. Ecco, questo voglio dire, cosa che appunto non facciamo adesso qui, non possiamo esaurire, ma insomma dico, conviene, vero, tenere pur presente che, avendo detto questo, modelli feudali, non è che poi con questo abbiamo trovato la soluzione di tutto il problema, in certo senso l'abbiamo soltanto avviata, ecco, ma ripeto, siamo d'accordo. Professor Brizzi, das Aspekt reicher Referat wird viele Fragen auf. Und zwei möchte ich hier stellen, weil es Themen sind, die mich selbst beschäftigen und auf die ich selbst noch keine Antwort habe. Die eine ist, es gibt bei den italienischen Kommunen das Phänomen, bei den italienischen Kommunen das Phänomen der Doppelbürgerschaft. Dass also Bürger aus Bologna zugleich Bürger in Ferrara sind. Und die Frage, die ich habe, wie weit wird sich diese Doppelbürgerschaft auf die Bildung sowohl der Opposition wie der Partei Barbarossas in Italien auswirken? Ja, vielleicht stelle ich die zweite Frage erst hinterher. La prima domanda è questa. Io penso che il problema in sostanza è quello delle divisioni all'interno delle città tra quelli che noi chiamiamo di solito Guelfi, Ghibellini, non so, queste parti che poi assumeranno anche altri nomi e sottodivisioni, eccetera. Ecco, questa divisione che è nell'interno delle città, e su questo siamo tutti d'accordo, tutte la conosciamo, eccetera. Questo comportava poi delle alleanze, e tutti lo sappiamo, tra per esempio gli estrinseci dell'una, i fuoriusciti dell'una, con quegli intrinseci dell'altra, tutto un gioco che va considerato luogo per luogo, momento per momento, e che poteva portare poi a questo fatto di quelli che erano favorevoli, di quelli che erano contrari, della prevalenza dell'una parte sull'altra, della espulsione dei avversari vinti o poi del reingresso mediante magari l'aiuto appunto di interventi imperiali o di altre forze della parte federiciana, eccetera eccetera. Ecco, penserei, se ho inteso bene, nei limiti insomma in cui ho inteso la sua domanda, penserei a questo fatto di questa molteplicità di gruppi, di orientamenti politici, diciamo in senso lato, e che questo comporta tutto una serie di legami, di rapporti, di intrecci tra città e città, ma ecco, dicendo città e città è detto male, dobbiamo dire tra gruppi di una città con un gruppo di un'altra, e questo può portare appunto anche alla molteplicità delle cittadinanze, della concessione di cittadinanze, e quindi con tutti i diritti annessi e connessi, i rapporti che ne derivavano. Questo mi sembra. Beschäftigt sich mit einer Paradoxie. Theorie des Lehnrechts wird vor allen Dingen, das heißt also die Libri Feudorum, werden vor allen Dingen in Mailand redigiert, und es sind gerade die Führer der kommunalen Politik Mailands, also etwa Anselmus de Orto oder Gerardus Cagapista, die als die Hauptredakteure der Libri Feudorum oder zumindest als Mitredakteure dieser Libri Feudorum anzusprechen sind. Das heißt also, die Theorie des Feudalrechts wird bei den Gegnern Barbarossas formuliert, die Anwendung dieser Theorie wird von den Parteigängern Barbarossas durchgeführt. Wie kann man zu dieser Paradoxie Stellung nehmen? Dunque, l'osservazione che ci viene. Dovrei soltanto ringraziare calorosamente, direi, il professor Fried, e anzitutto appunto del garbo, diciamo così, della simpatia con la quale ha presentato questa osservazione, e dirgli che gli siamo tutti grati di averlo posto il problema. Per parte mia dichiaro proprio candidamente, confessione in pubblico, capitolo delle colpe, che non so rispondere, e sarebbe forse una ricerca da fare. Però appunto, siccome si tratta di una cosa più di giurista, diciamo così, che di storico, io passo la palla al giurista qui presente, se lui ci aiuta. Forse abbiamo anche altri che ci possono aiutare. Il professor Engels che aveva già chiesto la parola. Inwieweit kann man bestimmte Gruppen von Allianzen historisch begründet sehen? Zum Beispiel, unter Kaiser Konrad II. Im 11. Jahrhundert waren die eigentlichen Verbündeten des Kaisers die Markgrafen in der westlichen Lombardei. Im östlichen Oberitalien waren es die Bischöfe. Zur Zeit Friedrich Barbarossas haben Sie gesagt, Professor Betzi, dass die Markgrafen die bestimmten Gruppen wieder waren. Und wir haben Ravenna als ein bischöfliches Fürstentum. Gibt es hier eine kontinuierliche Linie und hat sie als Voraussetzung für Friedrich Barbarossa noch eine Rolle gespielt oder nicht? Ecco, la domanda è questa. Nella vicenda storica dell'Italia noi ci troviamo che al tempo di Corrado II la feudalità è in un certo senso collegata all'imperatore e i vescovi, diciamo così, sono all'opposizione, che è una situazione non molto differente da quella che troviamo al tempo del Barbarossa. Si può pensare in questo senso e su questa base ad una continuità o no? Continuità del filo imperialismo dei vescovi, dei nobili e della tendenza non del tutto imperiale e non imperiale dei vescovi. Cioè, i signori feudali tendono a essere vicini all'impero, e questo come direi tendenza. Come tendenza, su questo direi siamo tutti d'accordo, no? I nobili, la feudalità ha tendenzialmente filo imperiale. Sui vescovi, qui direi che mentre per la feudalità si può, così sempre in quei limiti di approssimazione che ci sono sempre quando si generalizza un po', si può dire quello che abbiamo detto, sui vescovi direi che non si può generalizzare, cioè dire i vescovi dell'Italia, diciamo pure anche dell'Italia centro-settentrionale, lasciamo altri campi, è vero? Lasciamo magari appunto tutta la situazione romana e delle sedi suburbicarie, eccetera. I vescovi dell'Italia centro-settentrionale sono così o cos'ha? Questo direi di no. Io, per esempio, ho portato l'esempio di Carlo di Torino, lì è evidente che è filo imperiale. Questo lo era perché doveva combattere i Savoia, conte di Savoia, e doveva combattere il comune nascente di Torino e faceva il filo imperiale, ma lo faceva, senza con questo pensare, ritengo, di venir meno a certi suoi doveri di sacerdote, eccetera, eccetera, era filo imperiale. E così io l'ho saltato qui, ma per esempio il vescovo di Pavia, e lì direi si capisce anche benissimo, vero? Vescovo di Pavia, Pietro V, io l'avevo qui raccontato, ma l'ho saltata, era filo imperiale, cioè ha accettato Vittore IV e tutto quanto. Allora poi hanno tentato di mettergliene un altro, come al solito, quello l'avevo, mi pare, accennato per bene, Firenze, eccetera. Quindi ci sono, si può forse così, grosso modo, dire i vescovi sono più dalla parte dei nemici di Federico, perché insomma i vescovi stanno con i cittadini, esempio di Galdino, va bene, quello lo sappiamo tutti, no? A Milano, dunque i vescovi stanno con i cittadini e quindi sono più così da quella parte, oppure perché ormai la Chiesa dopo la Riforma, e allora lì il discorso si allargherebbe all'infinito, vero? Il fatto che ormai la Riforma ha diviso più di quanto non fosse prima, diciamo così, Chiesa da Stato, per usare parole un po' grosse, ma insomma, ecco, e allora si può capire che in linea di massima potremmo dire che sono più contro che non a favore, però degli esempi sicuri, concreti e documentati di vescovi filo-imperiali, senza, ripeto, che con questo si considerassero assolutamente meno degni vescovi, ci sono. E quindi una decisione, direi, un giudizio, così non mi sentirei di darlo, direi la situazione è questa che è. Zwischen die Feudalherren und die Bischöfe. Für die Feudalherren ist er immer. Dunque, le cose che avevo, per cui avevo chiesto la parola, sono state ormai superate. No, possiamo ricominciare. Ma come? Ve le racconto venerdì. Ho preso nota, ve le racconto venerdì. Volevo dare una risposta invece a Fried, che parlava di Gerardo Cagapisto e di Anselmo dell'Orto in quanto feudisti. Sono dei feudisti, nel senso che sono giudici di professione, e le cause feudali venivano discusse nella curia vassallorum, ma anche nella curia consulum. Tant'è vero che noi troviamo poi negli statuti cittadini moltissime norme di diritto feudale. Noi troviamo negli statuti cittadini più norme di diritto feudale e più norme di diritto agrario che non norme di diritto commerciale. È una cosa di cui dobbiamo tener conto. Gerardo Cagapisto e Anselmo dell'Orto, uno, Anselmo dell'Orto è stato console, vero? Gerardo Cagapisto, console e rettore della Lega. Ma non hanno redatto i libri feudorum, hanno dato un contributo che è segnato col loro nome. Ed è proprio in conseguenza della loro attività professionale. Anche adesso noi abbiamo degli avvocati che difendono certe cause, con più o meno convinti, civili o penali o sindacali, insomma, ecco. È una situazione analoga a quella. Le altre cose che volevo dire le dico venerdì. Per quanto in quel campo lì, poi c'è la signoria. Secondo me, questi sono dei pareri e Anselmo dell'Orto scrive proprio due lettere, scrive quasi una sorta di trattato di diritto privato, mentre Gerardo Cagapisto è ricordato come giudice, come giudice. Il testo viene a quella parola, ma secondo me è una cosa detta subito in due parole, la spiegazione è qui, secondo me. C'è una profonda divisione nella feudalità. Infatti, i libri feudali, nella prima, nella seconda e nella terza edizione, sono tutti contro l'interesse della grande feudalità. Perché? Perché sono tutti fondati sul principio della successiva eredità dei feudi, quasi al feudo della guardia. Perfino al feudo annuale, quasi arrivano ad ammettere la successione anche sul feudo. Cioè, il libro feudorum è sostanzialmente un diritto feudale indirizzato a favore del piccolo feudatario, perché certamente è un'estensione, come da resto dice chiaramente l'introduttore, come ha ristudiato il Branco di Butraghi, come le ultime indicazioni danno, è una interpretazione, un passaggio, diciamo così, dalla norma corradiniana, che è di Corrado, che prevedeva la successione dei benefici feudali dei feudatari degli arcivescovi, dei vescovi e dei conti, anche invece per i passi dei passi. Quindi, per i passi dei passi, cioè non solo per i capitani, ma per i passori, addirittura per i passi. Ci sono delle interpretazioni che arrivano a quel punto. Quindi è chiaro che se noi mettiamo una presenza così della feudalità minore nei comuni, noi abbiamo questo. E d'altra parte, se noi non emettiamo la presenza del feudale comune, se dal mio punto di vista faccio molta fatica a spiegare la gente interna forte per lei ed è diritto la mangia dentro l'aeroporto, ma questo è tutto un altro. Questo è tutto un altro. Cioè, bello, è molto più. Appaia con notevole chiarezza quando gli alleati dell'imperatore fossero città o fossero signori feudali divengano tali in base a delle necessità contingenti che li spingeva a schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra. E mi sembra che anche l'atteggiamento dell'imperatore non sia scevro da questo condizionamento, come per esempio mi sembra abbastanza emblematica la questione controversa tra il vescovo di Torino, Carlo, e il conte di Savoia, gli stessi privilegi assegnati prima all'uno e poi assegnati all'altro quando il momento era diverso, le necessità erano diverse. Io questo volevo chiedere al professor Bretti, in questo atteggiamento di Federico, tenendo conto anche del momento in cui siamo, cioè del XII secolo, in cui l'ideologia imperiale mi sembra avesse ancora, fosse ancora presente, fosse ancora, avesse una credibilità, quanto nell'atteggiamento di Federico c'è di contingenza, quanto fosse dettato dalla contingenza e quanto invece fosse dettato, se c'era naturalmente, dall'ideologia imperiale, dal fatto che lui credesse in questa ideologia imperiale della quale era portatore. Era molto tale. Mi sembra che questo problema scaturisca anche da un altro fatto che diciamo è corollario a questa situazione. Per esempio i diplomi che l'imperatore concede alle città o ai signori feudali, mi sembra che al di là del contenuto oggettivo e quindi del valore come privilegio che veniva concesso dall'imperatore, avessero sempre tenuto conto del momento storico una certa importanza anche dal punto di vista formale. Cioè, io non sono particolarmente, non sono specialista per niente, diciamo, in questo periodo non sono né un paleografo né un diplomatista, però mi sembra che anche il ripetere determinati schemi, determinate formule, fosse dettato anche da questo fatto, cioè di dare maggiore dignità al documento proprio dal punto di vista formale, al di là del contenuto, del valore contenutistico. Di Frage. Tanto abbiamo sentito una voce milanese, che abbiamo sempre parlato di Milano e bisogna pure che Milano si facesse sentire. Dunque, signorina, io piglio quella sua espressione, necessità contingenti. Ecco, sono grato che mi permette di precisare quanto io, almeno nella mia mente, avevo molto chiaro. Questa contingenza sulla quale effettivamente io ho insistito non significa poi oggi, domani, ieri e dopodomani. Quando io dicevo guardiamo la contingenza delle situazioni, mi volevo contrapporre polemicamente, diciamo così, a quelle formule, no, del dire l'indipendenza, la libertà, questo e quello, che sono cose che non esistevano e che insomma non si sapeva che contenuto concreto avessero. Ecco, la contingenza voleva dire questo: guardiamo i possessi, guardiamo i passaggi di certe località, guardiamo, ecco, ma che è una contingenza che dura dei decenni e che è data dal patrimonio di certa gente, dagli interessi degli affari di certe altre famiglie, eccetera. Ecco, quindi va benissimo che lei abbia sottolineato, diciamo, questo fatto di una contingenza che però, ripeto, non si esaurisce nella cronaca quotidiana, diciamo così, delle cose, ma che vuol dire soltanto di voler vedere la cosa non così, usando delle etichette generiche, vuote, e guardando invece a quelle che sono le situazioni. E questo, diciamo, è messo a parte. Le rispondo subito su quella che era la sostanza della sua domanda circa la ideologia di Federico. Se gli organizzatori del convegno avessero data da fare la relazione sull'ideologia di Federico, io avevo materia quanta ne volevo, e bastava prendere la lettera di risposta di Federico alla lettera che gli avevano mandato i Romani, e lì abbiamo, si può dire, tutto. E poi si potrebbe continuare per gli anni successivi, quella è proprio agli inizi del regno. I Romani avevano scritto a Federico, vero, vieni a prendere l'impero, eccetera, eccetera, noi siamo i detentori dell'impero, e quello gli ha fatto una strapazzata dicendo, ma che impero avete? Oh, l'impero ce l'ho io, siamo noi tedeschi, abbiamo la forza, e qui e là. Adesso io la dico così, come si può dire alle 7 di sera queste cose, cercando di renderle più leggere possibili, ma voglio dire, cioè, che lui è naturalmente il suo entourage, quando noi diciamo così, poi è chiaro che queste lettere gliele preparavano, come succede d'altronde a tutti, insomma, i capi, eccetera. Lui aveva una certa ideologia che gli era venuta su attraverso così la sua preparazione, e sulla quale poi... Ecco, lui ce l'aveva, certamente ce l'aveva. Adesso appunto si potrà vedere quanto c'era di romano, quanto c'era di teutonico, come lui poi la interpretava, su che si basava. Lui lo dice chiaro, dice, ma che cittadini romani? Io c'ho i miei principi, c'ho i miei feudatari, quelli sono la mia forza, eccetera, eccetera. Ecco, e quindi c'era, e ci credeva, io direi, ci credeva. Questo però, direi, è un altro discorso. Siamo su un altro piano, insomma, è chiaro che poi nell'applicazione, caso per caso, lui si teneva fede a questa sua ideologia, ma insomma non aveva bisogno, quando doveva decidere appunto una questione tra Pavia o Milano, o tra il vescovo di Torino e il feudatario, di metterla subito in campo. Mentre invece, è verissimo, e così chiudo, è verissimo che nei diplomi si trovano delle interessantissime e importanti, decisive e chiarificatrici dichiarazioni. Questo io l'avevo detto all'inizio, mi permetto adesso di rileggere una riga, là dove dicevo, dalle dichiarazioni di principio esposte in momenti decisivi, dalle formule dei diplomi e degli altri atti della cancelleria, si possono di volta in volta ricavare le caratteristiche, i limiti, gli strumenti di quell'autorità nella sua duplice veste di regno ed impero, eccetera, eccetera. Cioè, veramente, dice bene lei, ha detto bene lei, al di là del contenuto specifico dei diplomi, dove appunto si concede questo, si dà questo, si dà, c'è in alcuni almeno, nelle premesse, vero, alcune dichiarazioni di principio. Adesso non dirà quelle cose a cui ho accennato prima, quelle le dirà in altre sedi, in altre circostanze, eccetera, ma insomma delle dichiarazioni di principio che ci possono servire molto per confermarci, e così appunto concludiamo, confermarci che egli credeva in una ideologia che aveva la sua vitalità, così come poteva averla alla metà del secolo, che non era, adesso senza per ricollegarci a cose che dicevamo stamattina, c'è Carlo Magno, Ottone, eccetera, eccetera, ognuno poi lo interpretava, la faccenda tutta di Carlo Magno, per esempio, ai fini della ideologia sarebbe preziosissima, ma insomma adesso non la ritiriamo più. Io ho esattamente un minuto per riassumere e per chiudere la seduta, perché sono sobrezzi, ringraziando quanti sono intervenuti.